Vede, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e-cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi. Mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose. Ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale? E ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce, stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione. Tutti completamente persi, senza nient'altro nella testa. E poi il fischio dell'arbitro e tutti che impazziscono. E in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo. E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. E che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Di quando in quando, non molto spesso, però succede, ti capita di scoprire un mondo che funziona diversamente. Un mondo che non si ferma a maggio e riparte di nuovo in agosto. Ci sono cose che non tornano più e cose che non se ne andranno mai. E cose che non potresti ignorare anche se volessi. Carissimi ascoltatori di Archeologia Videoludica, bentornati a questo nuovo episodio, nuovo speciale, che è la seconda parte dello speciale sul calcio, ovviamente intitolato Un calcio alla storia. Lo avete sentito ovviamente con questo piccolo omaggio al calcio, che è comunque una passione che molti di noi magari hanno condiviso in maniera viscerale, altri forse probabilmente anche un po' meno, però insomma era così un intro che ci siamo sentiti insomma di buttare dentro, e poi chissà nella terza ed ultima parte che cosa ci inventeremo. Con me chiaramente, come nella prima parte di questo speciale, c'è Gianluca Santilio. Yeah, ciao a tutti e bentornato anche a te Simone per questa bella puntata. Mused, alla grande. Ormai è liscio. Mused, è per me la cosa fantastica, va bene. Comunque diamo prima i classici riferimenti della nostra trasmissione, che sono www.archeologiavideoludica.net, ma ci trovate ovviamente anche su Italian Podcast Network, ma il nostro coeditore fondamentale adesso è diventato GamesItalia.net, tant'è che probabilmente il punto di riferimento centrale poi in realtà sta diventando proprio allgamesitalia.net. Detto questo, ovviamente chiocciola videoludica è il nostro Twitter per poter anche interagire con il professor Jones, che non è sparito ma ogni tanto torna, poi va, torna, si eclissa. E su Google Plus e Facebook Archeologia Videoludica sono le nostre pagine, archeologiavideoludica@gmail.com è chiaramente la nostra posta elettronica, che ultimamente non è che state proprio utilizzando tantissimo, mentre che Gianluca, lo diciamo stavolta all'inizio invece di dirlo sempre alla fine, poi lo ridiciamo, ha non soltanto il suo canale YouTube, che è un canale che si intitola con un estro straordinario. Mi sono Gianluca impegnato Santilio tantissimo per dargli quel nome. È un po' come io quando gioco i giochi di ruolo, il mio personaggio si chiama Simone Pizzi, per dire. Per l'atmosfera. Esatto, diciamo medievale fantasy, sto in mezzo agli elfi, ehi tu Simone Pizzi. È fantastico. Ma c'è anche una novità. Sì, è perché adesso con tra l'altro un altro amico di Italian Podcast Network, Alberto Semprini Neo Geo 82, abbiamo creato un altro canale che si chiama Steam Raiders, dove insomma parliamo un po' di videogiochi, appunto di Steam. Abbiamo iniziato da poco, siamo ancora piccoletti, ma insomma cresceremo piano, sicuramente. Piano piano, fondamentalmente quello che per ora stanno facendo è un elenco delle prossime uscite e le recensioni dei giochi già presenti, che ritengono, insomma, sì. Sì, esatto, che ritengono più interessanti. Ma a questo punto bando alle ciance, perché il pallone l'ho portato io e quindi se fa quello che dico io, se no me lo porto via e non si gioca più. Iniziamo, entriamo nel vivo della trasmissione con il classico Barnett College. Allora, qui la puntata può sembrare una puntata di transito, ma in realtà è una puntata bella ricca, bella cicciotta. Sì. Perché, allora, prima di tutto entra una fase importantissima, anche se diciamo era già iniziata, però in maniera estremamente marginale, invece adesso entra proprio nel vivo, che è quella ovviamente dell'aspetto arcade del gioco del calcio, quindi quando il gioco del calcio entra in maniera più decisa nelle sale giochi. Esatto, perché ovviamente noi non potremo nel nostro viaggio parlare di tutto ciò che uscirà nel mondo dei videogiochi per quanto riguarda il calcio, però c'è da dire che effettivamente per quanto riguardava i giochi di calcio in sala giochi non c'era praticamente niente fino a un certo punto. Noi nella scorsa puntata abbiamo visto Atari Sucker, che era il primo videogioco in bianco e nero del 78-79, molto essenziale. Però c'era il fuorigioco. Però c'era il fuorigioco, tra l'altro l'aveva fatto l'autore di Tempest, quindi manco l'ultimo fesso. E quindi adesso finalmente arriviamo al 1983, in cui il videogioco arcade comincia finalmente ad abbracciare il calcio, perché sappiamo il calcio non è uno sport americano, quindi gli americani non se ne interessavano, come al solito siamo stati costretti ad aspettare i mitici giapponesi, e questi giapponesi si fanno conoscere la prima volta, diciamo seriamente, con Exciting Soccer. Abbiamo detto 1983. Il produttore è la Alpha Denshi, che non è famosissima, ma che comunque con questo lavoro fa qualcosa di molto interessante, direi. Innanzitutto possiamo dire che la grafica è una classicissima top down, diciamo inquadratura 2D dall'alto, a volo di rondine si diceva tanti anni fa, a volo d'uccello, a volo d'uccello, esatto, senza doppi sensi. E è praticamente è un videogioco in cui cominciamo a avere proprio un gusto anche estetico molto riconoscibile del Giappone, che ci mette tante cose che non c'entrano niente, tipo le cheerleaders in questo gioco. Esatto. Si notano in maniera particolare, le ritroveremo anche più avanti. In Exciting Soccer ci sono 6 nazionali fra le quali scegliere, c'è anche l'Italia, e ci mancherebbe, perché nell'83 noi eravamo campioni del mondo in carica. Non ci sono differenze tra le squadre, come al solito all'epoca, insomma, cambiavano giusto le maglie, poi... A cazzo, esatto, diciamo. Esatto, esattamente. C'è la pubblicità della Canan, comunque. La Canan, perfetto. La Canan. Sì, vabbè, insomma. Quindi le partite qui durano 2 minuti, però comunque si cerca di inserire qualche elemento del calcio un po' più interessante. Per esempio ci sono i calci di rigore. Non ci sono i falli, però c'è il fuorigioco anche qua. All'epoca il fuorigioco piaceva. Evidentemente si pensava fosse una regolona, ecco. Nonostante qui si giochi in 7-7, quindi il fuorigioco un po' come averlo al calcetto quasi, non è proprio... Sì, ma non c'era neanche uno schema, i giocatori andavano veri a casaccio. Sì, praticamente sì. C'erano 2 pulsanti, uno per il tiro, uno per il passaggio. Ma la cosa più bella era come erano gestiti sia il tiro che il passaggio. In pratica, anche dai video che si trovano su internet si nota benissimo, c'è una freccia di fronte alla porta che noi dobbiamo attaccare con la nostra squadra. Questa freccia si muove in base al movimento del giocatore. In pratica, quando noi ci muoviamo con il nostro attaccante, quando ci sposteremo verso destra, la freccia si sposterà verso destra e viceversa, ovviamente verso sinistra, fino al limite estremo della porta. Quindi noi avanzando dobbiamo non soltanto tirare per e basta, insomma, senza pensare ad altro, ma dobbiamo anche muoverci in maniera tale da spostare quella sorta di freccia che fa praticamente da mirino. Una cosa stranissima che secondo me non funzionava proprio alla grande. Ma è molto interessante anche il passaggio, perché quando noi controlliamo il nostro giocatore, vedremo un altro compagno della nostra squadra illuminarsi con una sorta di quadrettino intorno. Questo non è molto bello esteticamente da vedersi, però comunque è una sorta di aiuto che ci permette anche di costruire meglio le azioni, perché vediamo a chi stiamo indirizzando la palla col nostro passaggio. È molto interessante. Guarda, questo gioco io me lo ricordo benissimo. Ma anche io, sai? Ed è un gioco bastardo. Il gioco, uno penso dei giochi più bastardi in assoluto, perché era difficilissimo. Proprio sto fatto della freccetta era proprio difficile riuscire a segnare, perché non solo era difficile ragionare sul movimento del giocatore, allo stesso tempo ragionare sulla freccetta, ma anche quando pensavi di aver acchiappato, c'era il portiere che le parava tutte, finiva quasi sempre i rigori e i rigori perdevi. Le monete che ci ho speso su quel gioco. Sì, sì, io ero piccolissimo al tempo, però comunque, vabbè, da me sarà arrivato un paio d'anni dopo, penso. Ma è uno di quei giochi che è durato tanto in sala giochi e poi in effetti era divertente, insomma. No, era figo. Sì, insomma, ti faceva sentire il calcio, per così dire. La grafica, come abbiamo visto, è abbastanza semplice, però è stata influente, insomma, tutto ciò, o quantomeno comunque è stata un'ottima rappresentante di quella che sarà poi la corrente principale dei giochi di calcio, cioè inquadratura dall'alto, sprite con proporzioni non rispettate, diciamo, con un look simpatico, e persino le cheerleader poi rimarranno ancora per un po'. Tra l'altro, se noi ci pensiamo, a Sensible Soccer ha preso molto dal punto di vista grafico da questo videogioco. Un'altra cosa che l'Alpha Denshi cercò di mettere dentro è stato il parlato digitalizzato, solo che sinceramente da quello che cioè non si capisce cosa dica la voce. Quindi insomma ci sta, però no, però gli effetti sonori, la grafica comunque era tutto molto colorato, sì, sì, sì, era sicuramente accattivante, è un grande gioco. Sì, sì, sì, hanno fatto anche un seguito che è arrivato esattamente un anno più tardi, che si chiamava Exciting Soccer 2, pure questo molto originale, e che però comunque non cambiava praticamente niente, aggiornava le squadre un pochettino e qualche modifica grafica, credo. Hanno levato l'Italia magari. No, l'Italia no, almeno non credo, questo non lo ricordo, ma comunque no, diciamo che è più o meno rimasto identico. Purtroppo il 1983, diciamo che non ci propone moltissimo altro. Ci sono stati un paio di anni piuttosto bui, abbiamo visto un paio di giochi oltre a questo Exciting Soccer relativamente interessanti. Il primo si chiama Pro Soccer della Data East, che era praticamente un titolo molto simile a Exciting Soccer. Si giocava sempre con la solita visuale a volo d'uccello, quindi verticale, con una grafica molto ben disegnata, ma non lo si è visto sicuramente nelle varie sale giochi come Exciting Soccer. Tra l'altro lo scrolling era piuttosto strano, perché era un po' a spinta, non so se ricordi qualche videogioco che sì, ho capito il senso, esatto, non tutto il gioco era così, però in alcuni casi sembrava proprio che lo schermo aspettasse che il giocatore si muovesse o che la palla si spostasse per dare una spinta allo scrolling, insomma non funzionava molto bene. C'è giusto una curiosità tecnica che può essere insomma gustosa, è che girava sul Deco Cassette System, che era una sorta di Neo Geo, Neo Geo pensato dalla Data East al tempo. In pratica, invece di cambiare sempre la scheda della macchina arcade per ogni videogioco, la Data East fece questo sistema nel quale tu cambiavi la cassetta di gioco semplicemente come fosse un Commodore 64 e cambiava il gioco intero, quindi i vari gestori di sala giochi dovevano semplicemente comprare la cassetta. L'unico problema è che si rompeva facilmente e per caricare un gioco all'inizio ci voleva veramente un sacco di tempo. Certo. Però, insomma, io sto gioco non lo conosco proprio. Sì, non so neanche se abbia avuto sinceramente una... se sia stato importato in Italia, non l'ho mai incontrato, quindi non ti saprei dire. Vabbè, ma anche meglio così probabilmente. Sì, probabilmente sì, però una cosa comunque c'è stato un altro videogioco interessante, ma soltanto perché ci ricorda quello dell'Atari, Atari Sucker, ed è Power Play della Cinematronics, che ci fa giocare in partite 2 contro 2, anche questo qui, con una grafica chiaramente migliore, erano passati 4-5 anni da allora, e tutto a colori, animazioni ben fatte, però insomma c'è meno appeal rispetto a un gioco di calcio, chiaramente, perché è una sorta di simulazione indoor non molto accattivante. Però rispetto per esempio ad Exciting Sucker c'è un bellissimo parlato digitalizzato veramente molto chiaro, qui davvero si capisce quello che lo speaker dice. Sì, assolutamente. No, non sto cercando video, ma non... No, non ce ne stanno su YouTube di questo qui, l'ho trovato semplicemente su Progetto Emma, sì, che è praticamente un sito fantastico italiano dedicato al MAME, che insomma, per i curiosi, diciamo anche questo, è una sorta di miniera d'oro per le informazioni. Certo, c'è anche un piccolo video di questo gioco. Ok. Passiamo al 1985, dove troviamo Tekken World Cup. Oh. L'abbiamo già citato nella scorsa puntata, perché è stato l'ispiratore di Microprose Sucker, la Sensible Software, quando quando i ragazzi della compagnia erano frequentatori assidui delle sale giochi, spendevano molto tempo di fronte a questo cabinato e da qui decisero di prendere ispirazione per fare il loro super classico per Commodore 64. La prima cosa che ti colpiva di questo Tekken World Cup era che era costruito attorno alla trackball. Oggi a pensarci è veramente un po' strano, però loro invece di utilizzare un banalissimo joystick dissero vabbè, mettiamoci la trackball. L'idea è abbastanza... che chissà quanti pezzetti di pelle ci abbiamo lasciato. Sì, io tanti. Io molti nelle sale giochi, mica solo a questo gioco, io dico in generale. Infatti però qui particolarmente, perché secondo me c'era un po' di spazietto in più rispetto al solito e lì era un raccoglitore di codice genetico, esatto, nascosto sotto forma di gioco di calcio. Infatti chissà quante infezioni. Comunque questa trackball era in un certo senso geniale come idea, perché dipendeva da essa la direzione e la velocità del giocatore. Ci sono i fotografi a bordo campo, vedi? Sì, si evolve sempre di più. Se sono fotografi, suppongo che siano. Potrebbero esserlo. E, quindi, che cosa succede con questa trackball? Tutto diventa più analogico, se vogliamo, quindi non c'è soltanto la bravura del giocatore nell'individuare gli schemi adatti per fare belle azioni, ma c'è anche proprio una sorta di prova fisica. Tu quando finivi di giocare a questo gioco, a parte le mani doloranti, proprio ti sentivi accaldato, sudavi, perché appunto c'era questo sforzo continuo per tutta la partita nel girare questa trackball, e più veloce la facevi girare, più appunto poteva correre il tuo giocatore. E tra l'altro anche i tiri e i passaggi dipendevano dalla trackball. In pratica c'era un unico pulsante di gioco: se tu facevi girare molto velocemente la sfera, facevi un tiro; se era un leggero tocco, diventava un passaggio praticamente. Il passaggio purtroppo non funzionava tanto bene, perché era meno preciso, poi il gioco non ti permetteva di avere una visuale particolarmente ampia del campo di gioco, quindi insomma non si faceva sempre un bel gioco. Si riuscì a creare una versione con un joystick al posto della trackball, ma chiaramente se ne perdeva un po' il senso, funzionava un po' peggio tutto, possiamo dire. Però graficamente il gioco è comunque ben fatto, veloce, come hai detto tu, ci sono forse dei fotografi a bordo campo, se non so racchetta palle tutti quelli là. Allora, abbastanza accurato. Devo dire che per essere, per il tipo di gioco è strano che sia un gioco per stare al gioco, cioè, nel senso che è un tipo di gioco che apparentemente sembra non adatto alla sala giochi, proprio perché, come hai detto te, poi ha anche ispirato giochi che sono andati poi ovviamente su console e su computer. Perché secondo me ha un aspetto sì arcade ancora, perché in effetti vabbè, c'è una scena nel link che troverete per vedere anche il video, dove c'è un punto in cui praticamente l'attaccante e il portiere fanno al gatto al topo, si inseguono in maniera così insensata, però il gioco già presuppone un certo tipo di logica nel gioco, il cross al centro, i colpi di testa al volo, cioè tutta una serie di cose che chiaramente sono più da gioco tra virgolette simulativo che da gioco arcade, però è così, sì. Insomma, veramente bello. Questo me lo ricordo poco, ma me lo ricordo già, perché sì io ho avuto il piacere di avere nel mio paesello sia la versione con trackball che quella con joystick, che con forse era meglio, dici, ma sai, però mi ricordo che vabbè, arrivò più tardi quella col joystick, ma non ci giocava tanta gente. Però poi comunque ho letto che quella con la trackball serviva in un certo senso anche per mettere una pezza ai problemi di affidabilità, perché la trackball, a quanto ho letto, era veramente molto molto delicata. Comunque dico un'altra cosa particolare di questo gioco, e c'è lo svolgersi del torneo, del campionato mondiale simulato, che praticamente prevedeva delle partite, 7 per la precisione, che però erano sempre le stesse. Non c'era il tipico sorteggio con la squadra che magari ti teneva anche un po' sulle spine. Qui si cominciava con la Scozia e si affrontava una sequenza di partite che era sempre la stessa, a difficoltà crescente ovviamente, però comunque erano sempre quelle. Curiosamente il Brasile era al terzo turno, quindi non veniva neanche considerata una grandissima squadra. Esatto, sì. Esatto. Quindi insomma, no vabbè, questo vi ho detto, ribadisco, gioco particolare, guardatevelo, perché veramente, ecco, se facciamo l'idea, per chi conosce ovviamente quelli che sono stati poi i giochi di cui poi tratteremo dopo, che sono stati i giochi per eccellenza, chiaramente si vede proprio come l'antenato, cioè come vedere l'uomo sapiens insomma nei suoi primi cammini. Sì, infatti poi se qualcuno ha un NES può trovarlo anche su cartuccia, perché venne convertito in occasione dei mondiali del 90, quindi con un bel ritardo, e si chiama Tecmo World Cup, perché appunto è della Tecmo, che all'epoca si firmava, diciamo, Tekken. Ah, ok, perfetto. Sì. E poi veniamo a un altro gioco che... Sì, diciamo che il classico forse del periodo della sala giochi è sicuramente il titolo più rilevante fino agli anni 90, è stato Messico 86. Dalle nostre parti lo chiamavamo Messico 86, negli altri territori si chiamava Kick and Run. Era della Taito. E la cosa buffa che mi ha fatto un po' riflettere su quanto forse siamo soprattutto noi italiani ad essere, o comunque noi europei, essere fissati con il calcio, è che questo videogioco non esiste sulla Wikipedia inglese, non se ne parla. Quindi ci sono rimasto un po' male, diciamo, in questo senso. Cercavo un po' di informazioni anche per prepararmi per il podcast, e sulla wiki inglese non si fa menzione, non se ne fa questo menzione. Videogioco, no. E su quella italiana? Su quella italiana sì. Vedi? C'è niente, non casualmente. Strano, perché poi in realtà gli inglesi insomma sono al pari. Sì, infatti poi ci sono scritti. Io questo gioco me lo ricordo, e me lo ricordo perché, come il primo gioco che abbiamo trattato, c'era il fatto delle magliette delle squadre che erano veramente totalmente sballate. Cioè, senso, l'Italia c'ha la maglietta gialla, vedi, ecco, solo questo. Diciamo solo questo, infatti. Ma no, è veramente fantastico. È interessante notare che questo qui è il primo tentativo serio, tra virgolette, di creare un videogioco di calcio in sala giochi a scorrimento orizzontale. Su computer, come abbiamo visto, la cosa era molto più avanzata, nel senso che c'era l'International Soccer, c'era Match Day, che avevano esplorato bene, insomma, questo tipo di gioco. E invece in sala giochi no, c'era questa tendenza a fare lo scorrimento verticale, ma Messico 86 arriva in maniera dirompente a cambiare insomma un po' le regole del gioco. La grafica è sicuramente la prima cosa che balza all'occhio, perché non è una grafica ispirata tanto alle partite di calcio quanto ai video, quanto ai cartoni animati di calcio. Sembra veramente un anime in movimento, proprio come movenze, sì, proporzioni, dei bambini spastici, insomma. Sì, bambini spastici, però veramente molto che zompano quando segnano, vabbè. Sì, zompano quando segnano, a volte si fanno il segno della croce, il portiere che subisce il gol, che sbatte, sì, i pugni a terra, sbatte i pugni per terra, mentre che gli altri gli esultano davanti, insomma, sì, vabbè, sono cose sportivamente fanno bene al calcio. Sì, infatti, portiere col cappellino, poi in stile Benjamin Price di Ollie e Benji, ovviamente. E quindi veramente molto, ci sono le cheerleaders che qui ovviamente fanno ovviamente coreografia a manetta chiaramente. E però è molto importante notare come la Taito abbia pensato alle animazioni non soltanto in chiave spettacolare, ma cercando di portarle ad influenzare il gameplay. Infatti i giocatori, oltre che muoversi con tutte queste cose insomma un po' particolari, giocose, riescono a fare molte più cose che in passato. Qui ci sono i colpi di testa, sembra una stupidaggine, ma molti altri giochi non ce li hanno. Ci sono le rovesciate, ci sono ancora i colpi di testa in tuffo addirittura, quindi la palla può essere colpita in vari momenti. E questo riesce a sofisticare il gameplay, lo rende sicuramente più profondo di quello che eravamo abituati a vedere in passato. Se non altro lo rendeva anche più scenico, perché sì, comunque sì, era sì, bello vedere, cioè la rovesciata di per sé era, diciamo, non dico un vezzo, ma era così, cioè nel senso una sofisticazione estetica. Sì, sì, no, perché però ecco, poi questo insieme all'altro gioco che non mi ricordo mai come si chiama, quello il primo, penso che per anni sono andati avanti. Sì, sì, sì, sì, questi sono rimasti sempre, ma anche perché appunto non c'era un sostituto valido. Valido. Sì, sì, sì. T'ho detto, dopo gli anni 90 sì, ne sono spuntati come funghi, però nel frattempo no, non riuscivano. I giapponesi sono stati bravi a fare questi titoli, ma non bravi come gli europei con i computer a inventarsi anche più cose. Poi magari il computer ti permette anche di impostare il gioco in maniera diversa, nel senso che se una partita ti dura 5 minuti va benissimo, in sala giochi tu devi entrare entro certi limiti per ragione di cose. Certo. Però ecco, qui in Messico 86 la cosa che a me piaceva tantissimo è che si poteva segnare in un sacco di modi, a parte il colpo di testa e le rovesciate, ma tu potevi dribblare il portiere. Non era come in Exciting Soccer, per dire, che era sempre fisso là davanti alla porta. Poteva uscire, poteva, certo, anche perché lo potevi controllare. E addirittura si può segnare tramite pallonetto, e credo che sia la prima volta che tu puoi vedere il portiere fuori dai pali e fregarlo con un bel pallonetto. No, forse Macro Bros Soccer ce l'aveva. Sì, sì, sì, però e questo è uscito prima, perché poi Macro Bros Soccer è dell'88, sì, questo è dell'86. E questo dimostra quanto poi la potenza hardware dei giochi da sala giochi era nettamente superiore a, sì, quello, sì, che sì, infatti. Insomma, ah, bada che gol gli ha fatto, vabbè. sto vedendo il video nel frattempo. Sì. Sì, poi tra l'altro qui si facevano anche delle azioni decenti, si poteva passare la palla abbastanza bene. Le squadre in questo gioco hanno un'altra novità, sono diverse fra di loro. Non era come in Tekken World Soccer, per dire, che c'era la difficoltà crescente e basta. Qui le squadre sono differenziate per caratteristiche dei giocatori. C'è la Germania, per dire, che era la squadra con i tiri più forti, allora era un po' più facile secondo me giocare con la Germania, perché arrivavi fuori area, tiravi una sassata di quelle veramente notevoli e potevi segnare. Però poi altre avevano caratteristiche differenti, gli Stati Uniti, per dire, erano molto veloci, il Brasile era micidiale con i colpi di testa e le rovesciate e così via. Quindi potevi sceglierti la squadra più affine, diciamo, al tuo modo di giocare. Era abbastanza sbalorditivo per l'idea che avevano avuto i designer, il cabinato, perché Messico 86 era un videogioco che potevi giocare in quattro. Non molti cabinati, credo, in Italia fossero muniti di dell'impostazione originale con i quattro joystick, però le tartarughe ninja sì, infatti, però ecco, questo qui supportava questa modalità e la Taito si è posta un problema: quattro giocatori in una partita di calcio con un singolo schermo, dove li mettiamo? Perché chiaramente sarebbe piuttosto caotica la situazione. Quindi ha pensato di portare un pulsante in basso, ha trasformato un pulsante in pedale. Quindi cosa succedeva? C'era la manopola, un pulsante e sotto il pedale per ognuno dei quattro Madonna. Giocatori. Sì. E il pedale praticamente era il tiro, e il tackle anche, mi pare. Quindi c'era questa impostazione da gioco di corse invece per un gioco di calcio. E tra l'altro era l'impostazione ufficiale, non qualche strana invenzione. Non era una modifica. Non era una modifica, no. Era... Okay, comunque Italia-Germania 14-0. Sì, si facevano un sacco di gol in questo gioco. No, ma era pim pim pum pum, cioè nel senso, sì, era proprio sì. Trick e ballacca e scoppiettini. No, ma era cioè, divertentissimo sto gioco, era. Sì, tra l'altro era divertente giocarlo. Poi tra l'altro giocarlo con come tutti i giochi di calcio, era divertente giocarlo con un avversario. Sì, con gli amici. A voglia. No, tra l'altro veramente guardate i video di questo, sembra un cartone animato in movimento davvero. Sì, sì, sì. A parte la palla che quando rimbalza a volte sembra diventa di pietra praticamente. Cioè, ovviamente ha delle ingenuità, delle incertezze, delle imperfezioni che sono tipiche, no, anche dell'epoca, ma ci sta, nel senso che comunque non era la sua vocazione il realismo, no, questo gioco. No, si vede perfettamente. Ed è il successo di un gioco del genere che pur essendo, insomma, ecco, magari se uno lo guarda così a prima acchito oggi, magari un ragazzo più giovane che non l'aveva vista allora può storcere la bocca, in realtà ragazzi si giochi erano troppo divertenti, cioè erano giusti per la sala giochi, erano. Tra l'altro adesso nel video che stavo guardando anch'io noto che c'era l'arbitro, e che la Germania ha una maglia grigia con le maniche celesti, i pantaloncini rossi e i calzini gialli, la Germania sì, che poi tra l'altro questa cosa io l'ho riscontrata in tutto quello che riguarda il Giappone, cioè nel senso i prodotti giapponesi, perché per esempio come si chiamava il cartone animato, quello della palla a volo? Mileshiro. Sì, vabbè, insomma uno di quelli. E a un certo punto che c'erano questi Giappone che va ai mondiali e c'era sta partita tra Giappone e Italia dove l'Italia c'avevano i pantaloncini gialli e una maglia blu o una maglia celeste, una cosa già proprio tirati a da cazzo, ma proprio, sì, ma tanto. Però proprio secondo me era proprio lo spirito della cosa, cioè nel senso che loro avendo questa fissa per i diritti dicevano: se noi non sapete leggere e scrivere senza chiederlo a nessuno, noi famo come ci pare a noi, così esatto. Almeno vabbè, comunque geniale anche sto gioco, insomma. Sì, sì, assolutamente. E io direi di chiudere qua la parentesi sala, sì. Perché vabbè, chiaramente non è possibile trattare tutto, qualche no, cosa va lasciata per strada, ma comunque quelli fondamentali sicuramente è sono chiaro questi. Che quello che lo scopo poi di questi tre speciali che stiamo facendo è quelli di tracciare poi il cammino fondamentale per quello che è stata l'evoluzione dei giochi di calcio per come li conosciamo oggi, senza poi chiaramente arrivare ai giochi di calcio come sono oggi, perché in realtà è bello proprio riscoprire il come si, cioè quello che potevamo giocare che ne so, veramente 15-20 anni fa, soprattutto com'era la grafica, com'era la curiosità, com'era l'audio, se il movimento era fluido, com'erano disegnati gli sprite, tutta una serie di cose, ma soprattutto anche la concezione, perché adesso noi entriamo in una categoria che è una categoria importante, perché come ha detto Gianluca giustamente, il Giappone ha dato una spinta importante per quello che riguarda i giochi di calcio all'interno delle sale giochi, quindi la versione arcade, ma a sua volta ha cominciato anche a fare molti giochi di calcio anche per le console, perché poi le stesse console sono state un momento importante della storia del videogioco, soprattutto le console giapponesi, e molti di questi giochi ovviamente con una concezione tipicamente poi giapponese, cioè assolutamente giochi sì. Che da noi non sarebbero mai stati concepiti veramente. O li abbiamo concepiti oppure ci avevano il loro perché. Vediamo un po'. Sì, innanzitutto dobbiamo dire che il calcio giapponese su console era fondamentalmente quello per NES, perché il Master System ha avuto qualche esponente, ma nei primi tempi era comunque molta poca roba e di scarso valore. Poi nelle più avanti sono arrivate le conversioni, quindi anche questa console si è arricchita, però il vero focus è sicuramente da fare sul NES, che parte nel 1985 con un soccer della Nintendo. Chiaramente c'è il lancio della console, quindi la casa madre cerca di mettere un po' di tutto, diciamo, cerca di offrire una offerta completa, e il primo gioco di calcio lo affida a uno studio che si chiama Intelligent Systems, che all'epoca non era praticamente niente, pochissimo conosciuto, ma che negli anni è riuscito a diventare famosissimo per serie come Famicom Wars, che poi diventerà Advance Wars, oppure Fire Emblem. Addirittura si è occupato di Super Metroid, quindi ha avuto un grande successo. Però il loro secondo titolo è Sucker, che è un videogioco abbastanza scarso, possiamo dirlo. Sì, possiamo dirlo. Prende spunto, diciamo, da molti videogiochi anche trattati nella puntata precedente. Sì. Se ve li ricordate e lo guardate a occhio, insomma, diciamo che lo ricordo. Arriva da lì. Però c'ha delle, magari alcune peculiarità, una peculiarità che ho notato subito. Io non lo conoscevo sto gioco, chiaramente, e lo vedo ed è ovviamente una bruttezza abbastanza indicibile, però c'ha una peculiarità che abbiamo già visto prima. Non so se ci hai fatto caso. La spinta? No, la freccia. Ah, la freccia. Sì, vabbè, questo è un fatto abbastanza male in un po' tutto. Tra l'altro funziona molto peggio come divertimento di Exciting Sucker con la freccia. È un classico videogioco del calcio, come posso dire, standard, veramente, in cui hanno cercato di fare il minimo indispensabile per offrire un titolo del genere. Si gioca in 6 contro 6, quindi neanche qui ci sono gli 11 giocatori delle partite normali di calcio. Ci sono 7 nazionali anche qui tra le quali scegliere. C'è la freccia, che però in questo caso non si muove in base al giocatore, ma si muove un po' a casaccio, insomma, bisogna cogliere il momento giusto. È random, sì. E poi, insomma, poco altro. È un gioco molto facile, tra l'altro le partite si vincono senza problemi a qualsiasi livello di difficoltà, diciamo, quindi non è stato mai amato dal pubblico Nintendo. Ha ragione. La Nintendo, fra l'altro, si accorgerà di questo, perché c'è stato poi un certo vuoto sul NES per quanto riguarda i giochi di calcio, e la Nintendo stessa si preoccuperà di prendere in licenza un gioco di una terza, di un'altra azienda, della Tecmo, più avanti per colmare questa lacuna. Quindi passiamo subito al secondo videogioco di questa tornata console, che si chiama, attenzione, Neketsu High School Dodgeball Busoker Hen, della Tecnos, appunto, che era un videogioco però di calcio. Te la sei preparata proprio, sì, alla stragrande, insomma. Non ne parliamo, guarda, era difficilissimo da pronunciare. E quale sarebbe nella lista? Sarebbe la versione originale di Nintendo World Cup. World Cup, perfetto, ok. No, scusa, che, però... No, figurati. Allora, praticamente, che succede? La Tecnos in quegli anni, poco prima, aveva scelto di basare una parte della sua produzione su una mascotte. Una mascotte che si chiamava Kunio-kun. Allora, solo ai giapponesi, appunto, poteva venire in mente di chiamare una mascotte come il capo dell'azienda. Cioè, tu immagini, è come se la Fiat si facesse una macchina che si chiama Marchionne, per dire, come posso dire, una roba del genere. E praticamente, ma peggio ancora, questo Kunio-kun era un ragazzotto che frequentava le superiori e si trovava sempre in mezzo a robe un po' malavitose, un po' queste gang, ci sono sempre queste gang di ragazzi cattivi. E in questo Neketsu High School, eccetera, eccetera, si immagina un torneo di calcio fra 13 scuole. Porca miseria, quanto è brutto. ma ti assicuro che è un videogioco veramente divertente. No, no, no, non lo metto in dubbio, però, cioè, sì, permettimi di dire che è brutto, cioè, no, vabbè, figurati. E tra l'altro si vede il fatto che si capisce che è una sorta di torneo fra ragazzi, tra gang rivali, perché non ci sono falli, quindi si picchiano, ci sono colpi quasi da karate per violentissimi. Vabbè, giapponese, insomma. È giapponese, e tra l'altro si nota perfettamente che questa qui non è una simulazione, nel senso che tutto, a malapena si nota che è un gioco di calcio, se vogliamo, perché poi l'originale giapponese è caratterizzato pure da un campo pieno di pozzanghere, ci sono i colpi speciali, il pallone che diventa boomerang, quindi è veramente un circo. E quindi ci sono soltanto regole basilari, se così possiamo dire. Non c'è il fuorigioco, ovviamente, ma dall'inizio si nota una cosa molto particolare. C'è una sorprendente gestione delle tattiche, sì, e dell'atteggiamento della squadra. Quindi tu puoi veramente impostare il tuo team come vuoi, e questo per un motivo molto preciso. Tu non controlli tutta la squadra, tu controlli il tuo giocatore e basta. Quindi c'è un'intelligenza artificiale piuttosto sviluppata, per questo poi forse l'intenzione di voler impostare la partita prima che inizi in maniera più approfondita, cosa che poi darà il via ovviamente alla mania tipicamente dei giochi giapponesi di essere molto specifici, molto anche esattici, no? Sì, sì, sì, poi il Giappone sui giochi di calcio ci ha fatto veramente mille cose diverse. E allora, qui però cosa succede? Questo gioco viene pubblicato, ha un certo sono successo. Sono due morti in campo, nel frattempo. Sì, sì. Succede tutto, davvero. Viene pubblicato, la Nintendo se ne accorge e dice, ma perché, visto che siamo intorno ai mondiali, ci stiamo avvicinando ai mondiali del 1990, perché non pubblicarlo anche nel resto? Sì, certo. Perché questo chiaramente, un gioco del genere poteva essere pubblicato solo in Giappone. Almeno per quanto riguarda la grande distribuzione, poi ci sono tantissimi appassionati di Kunio-kun e tutti i suoi giochi, ma la Nintendo quindi disse, vabbè, allora siccome siamo rimasti al gioco di calcio nostro che faceva un po' schifo, portiamolo in Occidente, in America e in Europa, ma lo modifichiamo un po'. Allora diventa Nintendo World Cup. Nintendo World Cup cambia, insomma, tante cose, ed è il gioco, fra l'altro, su cui Nintendo punta per vendere il suo adattatore per 4 giocatori. Quindi diventa una sorta di piccola rivoluzione nel mondo del NES, perché per la prima volta si potrà giocare in 4 con un adattatore Nintendo. Quindi vengono cambiate un po' tutte le cose, non si può più fare queste partite assolutamente fuori di testa. Il gameplay rimane più o meno lo stesso, ma comunque tutte le gang diventano nazionali, i calciatori, diciamo, anche senza possibilità di riconoscerle tra una squadra e l'altra, perché io sto vedendo la partita Brasile-Camerun, per me sono uguali, cioè nel senso cambiano, ecco, i pantaloncini forse cambiano, non capisco perché una dovrebbe essere il Brasile e l'altra dovrebbe essere il Camerun. Tra l'altro, in base a quale principio? Ogni tanto ci sono dei morti in campo e poi si assegnano dei gol così, senza ragione, cioè il portiere, la palla rimbalza vicino alla traversa ed è gol, non si sa perché. Sì, ma poi rimangono, il bello è che c'è tutta la l'impostazione da torneo mondiale, diciamo, vagamente serioso, ma poi rimangono i colpi speciali e tutto il resto, quindi... Sì, no, ma è divertente, si vede che cioè, è un gioco cazzillo e che deve essere divertente anche giocarlo, perché poi ecco, fai il passaggio, il contropassaggio, il ponte di testa, sa, c'ha tutta una serie di meccaniche che sicuramente l'hanno reso divertente, ha poi dalla sua, insomma, sta estetica che chiaramente non so quanto successo possa aver avuto, perché non lo posso proprio sapere, non lo conosco questo gioco, ammetto, però c'ha anche qualche problema, tipo che i sprite ogni tanto spariscono. Sì, no, non è fatto benissimo tecnicamente, però questo stile poi è stato mantenuto dalla Technos in tutta la serie di Kunio-kun, tra l'altro River City Ransom, che è uno dei picchiaduri più apprezzati, diciamo, del NES, è fatto anche con questi personaggi in questo modo qui, insomma, particolare, diciamo. Comunque Quindi ti dicevo, c'era questo multitap e la versione occidentale, diciamo, rispetto a quella giapponese, guadagna la possibilità di scegliere tutte le squadre per giocare anche in doppio. Invece nell'originale tu eri vincolato alla squadra del tuo personaggio, di questo Kunio-kun, e anche in doppio uno doveva scegliere quella squadra e l'altro magari ne poteva prendere un'altra. Un'altra cosa interessante è che però la versione giapponese aveva una storia con tante scenette di intermezzo chiaramente demenziali in relazione allo stile della partita, e tutto questo chiaramente viene perso poi nell'adattamento occidentale, che però è stato molto apprezzato. Insomma, se si leggono le recensioni in giro oppure i commenti su YouTube, c'è tanta gente che dice: ah, me lo ricordo, fantastico, faceva ridere, tutte queste cose qui, insomma. Sì, sì, no, è rimasto nel cuore. Indubbiamente divertente. Il calcio è un'altra cosa, però sì, è un'altra cosa. però è divertente, si vede che è divertente. Sì. Non ho altro da dire, devo dire la verità. Guardate i miei video e guardatevelo, insomma, per un po', perché ci sono cose particolari, cioè tu fai entri in scivolata da dietro sul giocatore, quello piange, però non c'è il fallo, capito? Cioè, oppure i giocatori rimangono sdraiati e via dicendo, insomma, vabbè. Tra l'altro l'hanno convertito per Mega Drive, mi pare PC Engine, quindi insomma anche su altre console. La cosa, se questo non è calcio, c'è anche la versione giapponese, hai messo, quindi metteremo le note anche quella, quindi. Sì, certo. Non avevo vista, non me ne sono accorto, quindi vai, mentre che tu parli una scorsa veloce. Esatto. No, ma se questo qui non è calcio, quello veramente che non lo è minimamente è Tecmo World Cup. Allora qualcuno dice: com'è possibile che sia, non sia calcio? Perché in Giappone si chiamava Captain Tsubasa e arrivò qualche tempo prima, chiaramente, rispetto all'Occidente. Captain Tsubasa, precisazioni bisognerebbe fare. Spiega. Captain Tsubasa, qualcuno certamente lo saprà, la maggior parte di quelli che ascoltano, ma è la versione giapponese di Holly e Benji. Esatto. Anche in questo caso, quando il cartone animato è arrivato in Italia, hanno cambiato tutto per renderlo più compatibile con le nostre pronunce e tutto quanto il resto. Sono questi ragazzi giapponesi, hanno preso dei nomi inglesi per qualche strana ragione, e quindi noi lo conosciamo come Holly e Benji. Captain Tsubasa non è un videogioco di calcio, almeno il tema è sicuramente quello, ma non aspettatevi di prendere il pad e cominciare a giocare la partita, perché posso dire una cosa? Certo. Prima che tu continui, perché poi dopo te lo faccio dire a te, però voglio dire, è l'interpretazione alla giapponese, cioè è il JRPG del giochi da calcio, secondo sì, me. È assolutamente così. E secondo me è una genialata. Cioè, sì, ribadisco, no, è una cosa che in Italia, cioè in Europa o in America, non avrebbero mai inventato una cosa del genere. Manco pensata. Non ci avrebbero manco pensato una cosa del genere, eppure c'ha il suo perché. Sì, ma poi come l'hanno fatta? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, non è un gioco di calcio, quindi possiamo definirlo, c'ha questa impostazione da combattimenti di giochi di ruolo, come dicevi tu giustamente, ma in realtà tu qui quello che devi fare è semplicemente azzeccare tramite un elenco la mossa giusta da fare al momento giusto della partita. Si prendono delle decisioni, praticamente comincia il match, tu ti ritrovi con Tizio a fare una determinata cosa e tu devi improvvisare la mossa giusta. È tutto casuale, diciamo, non c'è una strategia che tu puoi mettere in pratica piuttosto che un'altra, ci sono degli eventi e devi decidere al volo in base a quello che accade. Le partite per fortuna durano meno del cartone animato perché lì duravano alcune settimane, qui a volte puntate intere, quindi... esatto, e i campi sono in pianura, tra l'altro, quindi non c'è neanche la famosa collina con... ma lì secondo me è un problema grafico, cioè nel senso che c'è, cioè, il limite grafico che c'ha, non ce l'avrebbero fatta, esatto. Ma la grafica però è veramente incredibile, perché pensiamo che sono cartucce di Nintendo, tra l'altro, che nella migliore dei casi erano 512k, questa probabilmente meno, ma ci hanno messo tutte le facce del cartone animato, ci sono i personaggi che sono veramente riconoscibili e ognuno poi è bravo in alcune cose, quindi chiaramente quando ti rendi conto di controllare il tuo fuoriclasse li puoi far combinare qualcosa di speciale con molte più probabilità che ti vada bene. Quindi tutto quello che abbiamo visto in TV lo ritroviamo qui, e l'effetto è veramente molto riuscito. Ci sono stop, corse con le stesse movenze, è sempre molto divertente vedere questo gioco. Sì, è come vedere il cartone animato, soltanto che ovviamente tu ogni tanto devi fare questa selezione input, sì. Poi che ne so, c'è l'entrata in scivolata sulla palla per stopparla, o il difensore che tenta di intervenire sulla palla, però la palla magari gli passa oltre. È tutto chiaramente calcolato, probabilmente per statistica, no? Così come è proprio, sì, la concezione del gioco di ruolo, poi alla fine, suppongo. Sì, però, sì, sì. Cioè, geniale, per me è geniale. Cioè. Che poi è una saga che ci ha avuto tanto successo e che ancora oggi, se non sbaglio. Adesso non so quando è stata l'ultima pubblicazione di Captain Tsubasa, però poi hanno fatto, mi pare che su NES ce ne siano tre addirittura, altri su Super Nintendo, sulla PlayStation. Sicuramente anche fino al DS l'hanno fatto. Sì. L'hanno fatto qualcuno, perché insomma, vabbè, ovviamente questo è un gioco che ha spaccato, cioè per loro. Sì, ma il bello è che funziona in effetti, quindi è divertente. Poi no, chiaramente il bello è a un certo punto, quando tu stai lì e stai per fare la scelta e c'è l'inquadratura del tuo giocatore che sta per calciare la palla e appaiono delle ombre nere che lo circondano, che sarebbero praticamente le che ne so, i difensori che stanno là dentro. Sì. Cioè, tutto molto statico, chiaramente, però sì, sì. Ma scusa che ti interrompo, no, figurati. E quindi però la Tecmo voleva portarlo poi questo gioco anche in Occidente, e c'era il problema dell'America, perché in America Ollie e Benji non c'era, o quantomeno non era per niente famoso. Quindi loro decisero di modificare anche in questo caso in maniera abbastanza spinta il videogioco originale, e modificarono la grafica, che è irriconoscibile, e rinuncia allo stile anime e abbraccia più quello tipico dei fumetti americani, e a mio avviso ne perde veramente, sì, tantissimo, perde carisma, perde moltissimo carisma. E poi il gioco rimane lo stesso, e con, anzi ovviamente molto più facile giocarci per noi che capiamo un po' tutto, ma non è la stessa cosa, nonostante rimanga una storia e tutte le animazioni siano praticamente, funzionano alla stessa maniera, cambia il disegno semplicemente, però non è più Ollie e Benji, ecco, nonostante poi magari riusciamo a riconoscere alcuni giocatori dai colpi speciali che mettono in pratica. Quindi ecco, se avete un NES e vi piace Ollie e Benji, insomma, sappiate che esiste questo Captain Tsubasa, giocatelo anche magari su emulatore, tanto anche se in giapponese con un paio di tentativi si capisce quello che le variazioni fanno. E certo, basta, tanto devi andare a culo, quindi. Sì, infatti tra l'altro non sai mai qual è la scelta giusta, quindi vai tranquillo, insomma, in questo senso. Va bene, e questo diciamo che è lo startup, diciamo, la fase di partenza con la quale le console giapponesi, e quindi i giapponesi a livello domestico, insomma, partono per questa loro avventura calcistica, che poi ovviamente produrrà negli anni anche grandi successi. Però noi ritorniamo, insomma, a qualcosa che è più confacente, diciamo così, al nostro palato intellettuale e calcistico. Sì. Perché torniamo in Occidente fondamentalmente, e torniamo soprattutto su quelli che erano gli home computer, che, come giustamente anche ha scritto Gianluca sul documento, erano comunque un passo avanti rispetto al resto, proprio perché comunque i giochi da adesso in poi cominciano ad avere una vocazione molto più simulativa. Sì, noi per fortuna abbiamo sempre preso un sacco di botte da giapponesi e americani nel mondo dei videogiochi, siamo arrivati sempre un pizzico tardi, ma per quanto riguarda i giochi di calcio abbiamo detto la nostra. L'altra volta abbiamo visto come eravamo stati bravi noi europei a fare Micro Soccer, Emily Nukes, International Soccer, Match Day, quindi giochi veramente importanti che hanno portato ognuno qualche piccolo mattoncino nella costruzione del gioco di calcio migliore possibile, se così possiamo dire. Chiaramente eravamo rimasti nel mondo degli 8-bit, che sono stati sfruttati benissimo, fra l'altro. Alla fine degli anni 80 c'era la transizione definitiva dagli 8-bit ai 16-bit, si passava all'Atari ST si passava all'Amiga. Questo apriva tutta una serie di possibilità e nuovi protagonisti entrano sulla scena proprio nel campo della programmazione. All'epoca c'era un giovane di Nodini che, nonostante il nome, non era italiano, chiaramente di origine, e lui decise di provare a fare un gioco di calcio. Non aveva esperienze in merito, tra l'altro a quanto ho letto non era neanche un grandissimo appassionato di calcio, però aveva questa fissa, lui voleva creare da qualche cosa di molto noto, di molto consolidato come il calcio, qualcosa di completamente nuovo. Allora, c'è un interessantissimo video su internet di Nodini, che vi lasceremo nelle note, in cui lui dice di aver voluto scegliere un approccio completamente differente al gioco del calcio. Allora lui cerca di creare qualcosa di molto realistico. Innanzitutto doveva essere un gioco molto fluido, perché le partite di calcio sono fluide, devono avere questo senso della velocità. Quindi aveva 50 frame al secondo di obiettivo. Okay. Su Amiga c'erano tutti. Sì, su Amiga c'erano tutti, ma è molto fluido comunque, va bene anche su Atari ST, dove lui tra l'altro cominciò la programmazione. E decise di creare un campo proporzionato alle dimensioni dei giocatori. Il campo doveva essere veramente il protagonista di tutto quanto il gioco. Allora lui addirittura ha poi spiegato quali erano le misure precise del campo, cioè 12 pixel sarebbero stati usati per rappresentare una yard, che sono circa 0,9 metri. Il campo totale è di 76x166 yard, e quindi tutti i pixel sono stati messi al posto giusto, insomma il campo è esattamente di quelle dimensioni. Poi lui ha preso anche per la palla. La palla è l'unica cosa sproporzionata, perché 5 pixel chiaramente è più grande per ovvie ragioni di gameplay. Non si mette una palla che 2 pixel, magari difficile. Esatto, diventava molto complicato. I giocatori invece sono proporzionati al campo, e lui ha pensato che la corsa era la cosa più importante da rappresentare durante la partita, perché era ciò che accadeva per tutta la durata, e quindi decise di spendere 8 frame di animazione per i giocatori, che in effetti hanno queste, anche se sono molto fluidi nella loro corsa. La visuale è dall'alto, anche se non perfettamente, perché c'è un angolo di 30 gradi circa, secondo Di Nodini, che non viene rispettato però alla perfezione, perché voleva che si vedessero un po' i giocatori, anche la porta, che avesse una grafica un minimo più, fosse un minimo più gradevole, diciamo, ecco. Chi ha giocato alla versione ST, tra l'altro, noterà una pecca abbastanza sorprendente: mancano tutte le linee curve. Il campo di gioco non ha il cerchio di centrocampo e le aree di rigore non hanno la lunetta, perché l'Atari ST era una macchina senza blitter, quindi il blitter è un chip inserito nell'Amiga che permetteva di disegnare delle porzioni di grafica più velocemente. Lo scrolling fluido dell'Amiga era tale perché appunto c'era questo blitter. L'Atari ST non ne aveva uno di serie, diciamo, e quindi Di Nodini riuscì a creare un engine grafico in grado di essere fluido, ma soltanto perché disegnava esclusivamente linee orizzontali. In questo modo risparmiava potenza di calcolo e riusciva a ottenere qualcosa di fluido, però non era stato capace di mettere appunto le linee, tutte le altre linee. E quindi c'è questa mancanza, vedi, questi giocatori che arrivano a centrocampo, ma nel cerchio di centrocampo manca il cerchio, appunto, quindi fa un effetto molto strano, anche se il gioco poi è perfettamente a posto. E quindi innanzitutto lui ha cercato di creare qualche cosa che potesse ricordare. Il problema è rimasto anche su Kick Off 2, però sì, ma lui l'engine era quello. Sì, perché l'engine poi era quello. Quindi non c'era questo problema, evidentemente non si riusciva a fare righe. Non ce la faceva, E quindi lui ha detto: vabbè, cominciamo a fare qualcosa di realistico dal campo. Poi il suo approccio veramente particolare è stato quello di non creare un videogioco cercando di mettere i giocatori col pallone e vedere come aggiustare il gameplay per farlo funzionare al meglio. Lui prese l'intelligenza artificiale, computer contro computer, e la faceva giocare continuamente continuamente due squadre una contro l'altra senza che lui partecipasse alla partita. Allora lui ha cominciato a modificare l'intelligenza artificiale fino al punto in cui non gli è sembrato di aver ottenuto qualcosa di credibile, ragionevole. Quando lui ha assistito a partite capaci di soddisfarlo, allora ha detto: ok, adesso possiamo cominciare a metterci il giocatore. E il giocatore si vede che è stato messo. Il giocatore ci sta un po' scomodo in kickoff, perché è un gioco all'inizio estremamente difficile. Molto, sì. Chi se lo ricorda, chi ci ha giocato se lo ricorda sicuramente perfettamente, perché questa difficoltà era dovuta al fatto che esso era estremamente veloce e reattivo, e la palla non rimaneva incollata al piede come in quasi tutti i giochi che si erano visti prima. È stato il primo esempio, penso. È stato, sì, il primo esempio a questo livello, sicuramente quello più rilevante, ma probabilmente il primo in assoluto. E la palla, secondo Di Nodini, sempre riguardo al discorso del realismo, non viaggia incollata al piede del giocatore durante la partita, si muove per impulsi. Quindi i giocatori la raccolgono ed è come se la pallina rimbalzasse su di loro, no? Ogni volta. Esatto. E questo poi ha portato alla costruzione di un sistema di controllo chiaramente diverso dal solito, perché la pressione del pulsante non può permettere il tiro, chiaramente, se viene premuta poco, diciamo, ma se il pulsante di fuoco viene tenuto premuto, il giocatore si ferma sulla palla, stoppa, la controlla praticamente. Esatto. Sì. Quindi a quel punto poi si può indirizzare la leva verso una direzione piuttosto che un'altra e effettuare il passaggio. Quindi è difficile da padroneggiare nei primi tempi, ma riesce a dare al gameplay un senso di profondità che non si era mai visto prima, e permetteva ai giocatori di perfezionarsi veramente durante l'arco della loro esperienza con Kickoff. E fra l'altro questa è anche una delle ragioni per le quali esso è ancora oggi uno dei titoli di retro gaming, chiaramente di calcio, più giocati. Sono ancora organizzati dei tornei, ci sono moltissimi fan di Kickoff proprio per questa ragione, perché questo tipo di modello ti dava veramente la sensazione di migliorarti nel tempo, cosa che negli altri la curva d'apprendimento negli altri, diciamo, era molto più breve, ecco, se così possiamo dire. Poi cosa possiamo dire? I giocatori non sono così realistici come tutto quanto il resto, perché corrono molto di più della realtà, circa il triplo secondo Di Nodini, ma perché semplicemente bisogna creare un gioco di calcio divertente. Beh, consideriamo, io adesso dico delle corbellerie probabilmente, però consideriamo che dei Kickoff sono state fatte varie versioni, tante. Non soltanto Kickoff 1, 2 e 3, ma sono state fatte comunque anche delle versioni intermedie, e alcuni ovviamente apportavano magari alcune correzioni. Che anche questa questione della velocità, ci fu una versione che aveva o che avevi l'opzione per poter decidere se la velocità potesse essere comunque più rallentata, però vabbè. Sì, è molto probabile, perché adesso non ricordo veramente bene questa cosa, però ecco, quello che dico, ecco, che sia Kickoff che Sensible Soccer meriterebbero probabilmente anche una puntata proprio dedicata, anche dedicata. Magari per gli appassionati, che è, però ecco, siccome che lo scopo nostro non è quello di fare il confronto come è stato per decenni, no, fra Kickoff e ce ne guardiamo bene, esatto, cioè nel senso, noi raccontiamo il gioco, è chiaro che Kickoff secondo me aveva un approccio come tentativo, un approccio più realistico, mentre che Sensible Soccer, poi come lo vedremo, aveva un approccio più divertente e più da torneo, diciamo così, no? Quindi si potevano fare veramente i mega campionatoni, però erano due giochi che in qualche maniera si compensavano e che sono stati amati alla follia. Io, per me, cioè nel senso, io la scelta lo dissi già l'altra puntata, perché comunque quando ho avuto poi il modo di intervistare Dino Dini, e magari quel pezzettino lo facciamo sentire alla fine della puntata. Certo. Per me Dino Dini è stato un mito, perché probabilmente è stato proprio quello che ha veramente dato una filosofia diversa, un approccio diverso. Poi non è riuscito in tutto, chiaramente, perché poi ha anche fallito miseramente poi successivamente. Sì. Anche per sua amica stesso, poi lui fece un gioco di basket, non so se ti ricordi, si chiamava Tip Off, che era una cosa terrificante. E, sì, anche lui ha preso le sue cantonate, poi alla fine è rimasto incagliato nella saga di Kick Off, perché non è riuscito a fare altro, e a un certo punto poi questo modello è diventato commercialmente meno seducente per i vari publisher, che poi l'hanno abbandonato praticamente. E va bene, questo è. Non so, no, guarda, ti dico ancora due cose. Esatto, bravo. Sì, no, meglio. No, scusa, perché mi dispiace poi interromperti, ma poi alla fine, ecco, se io posso dare un contributo, poi alla fine in realtà un contributo proprio mnemonico, cioè nel senso che questi sono stati giochi che non soltanto hanno acceso anche la passione di noi amichisti, magari, perché comunque c'era veramente la discussione. Cioè, sembra una cazzata, c'era veramente la discussione quando ci si incontrava magari da per gioco. Facciamo il torneo a Kickoff, sì, Kickoff, qua a merda, giochiamo a Sensible Soccer, no, Sensible Soccer fa schifo, non capisci un cazzo. E so, c'era proprio una vivace, esatto, cioè, c'era una competizione reale, insomma. Quindi è stato il bello, perché comunque ha tenuto vivo probabilmente anche un genere che ha rischiato di morire, perché in realtà, come abbiamo visto fino adesso, non è mai emerso poi realmente fino a questo momento. Sì, comunque, vai, poi tra scusa. L'altro, su queste discussioni che facevamo all'epoca non ce ne accorgevamo, ma secondo me cominciavamo a fare anche cultura videoludica, perché poi non erano semplicemente più bello Sensible Soccer di Kick Off, c'era proprio la spiegazione, c'era la motivazione. Bravo, hai detto una cosa giusta, azzeccata. Sì, secondo me abbiamo fatto tanta cultura videoludica negli anni, non ce ne siamo mai accorti. Sì, e quindi insomma ti stavo dicendo che questo Kickoff era particolarmente interessante e veniva, tra l'altro era programmato anche molto bene, come dicevamo, tutto in assembler, tramite una tecnica degli sprite che Dino Dini chiamava del plotting. Io non mi avventuro nella spiegazione tecnica, perché non ne sarei capace, e quindi ne è uscito qualcosa di molto buono. Poi è stato convertito per Amiga, chiaramente, con il blitter, quindi sono arrivate le linee di centrocampo dell'area di rigore, e tutto è stato, diciamo, molto più bello e più veloce. Poi, dopo qualche tempo, dopo 2 anni per la precisione, è arrivato Kick Off 2, che in realtà non è un gioco diversissimo. Non c'era molto da cambiare, del resto si gioca grosso modo alla stessa maniera. C'erano dei bug che vennero eliminati, tipo cartellino Gaillo, che è il mitico errore nella munizione, e veniva migliorata l'intelligenza artificiale. No, in realtà c'era un'introduzione importante, perché dopo Micro Pro Soccer Dino Dini capì che era necessario inserire l'aftertouch, ovvero il tiro a banana, il famoso tiro a banana, il pallonetto, che hai ragione, è vero. Che non c'era in Kick Off e stavolta viene inserito. Tra l'altro, fra Kick Off e Kick Off 2 era stato pubblicato anche Player Manager. Noi non ci occupiamo di manageriali in questo speciale, però è giusto citarlo, perché in questo caso permetteva di importare le tattiche create in Player Manager per usarle in Kick Off 2. E come dicevi tu, Player Manager. Sì, grandissimo, gioco. Veramente. E fra l'altro, Kick Off 2, come dicevi, oltre alle varie versioni intermedie che c'erano state, prevedeva anche l'utilizzo di data disk, quindi di espansioni. Ne erano state pianificate tantissime, poi ne sono arrivate soltanto alcune, tra cui uno che si chiamava Final Whistle, che inseriva il fuorigioco, che non era previsto nel normal Kick Off, e venne aggiunto tramite questa espansione. Io penso non ci sia la famosa release Franco Baresi, se ricordo. Sì, quella era la localizzazione italiana di Kick Off. Penso sia l'unico videogioco con Baresi come testimonial, esatto, sicuramente. Esatto. E quindi kickoff è stato una pietra miliare del videogioco in assoluto, insomma, sia per computer che per console, perché verrà convertito praticamente ovunque. Le console ad 8 bit finalmente riusciranno ad avere, quelle che non ce l'avevano, un videogioco di calcio decente, però ecco, sicuramente la versione più godibile anche dal punto di vista grafico è quella Amiga. Insomma, era un piccolo gioiello e si vede che è stato fatto da una persona che è quasi da un alieno, perché non ha troppe caratteristiche tutte insieme che non ti aspetteresti di vedere da un gioco di calcio. Ha un approccio, l'approccio totalmente differente adottato da Dinodini, secondo me è veramente molto, ma guarda, visibile. Paradossalmente, come hai detto te, come anche confessò lui e come poi sentiremo poi nel pezzettino di intervista, lui non, come abbiamo detto, lui non era un appassionato di calcio, e probabilmente questa è stata poi la carta vincente, perché non l'ho fatto con il condizionamento della passione nei confronti di un qualcosa, l'ho fatto proprio con un approccio scientifico, cioè nel senso, lui ha studiato l'universo calcio, quindi l'universo partita, anzi, perché per lui era la partita, cioè poi tutto il resto, infatti ecco perché probabilmente Kickoff era inferiore rispetto a Sensible anche sul discorso del torneo, no? Perché per Dinodini era fondamentale l'aspetto della partita, quindi cioè la partita, sì, la simulazione della partita. La simulazione della partita, poi tutto il resto, tant'è che poi ha aggiunto tantissimi elementi, come detto te, c'era la pioggia, c'era il vento, il terreno pesante, il terreno secco, il vento, quindi la direzione del vento che mutava, ovviamente, anche se era troppo forte, mutava anche la traiettoria della palla. Insomma, ha aggiunto veramente un'infinità di cose all'interno di questo gioco che poi alla fine era diventato un mostro, fino poi ovviamente ad arrivare una release successiva, quando probabilmente Dinodini non è più stato magari anche al passo con i tempi dal punto di vista tecnico della programmazione, anche perché poi insomma si entrava in una fase dove il one man show, diciamo così, uomo programmatore oramai era in fase d'estinzione, perché assolutamente. E poi comunque era a metà generazione, a quasi al cambio di generazione, quindi da una parte c'era chi spingeva le console fino al livello estremo perché era tanto che ci lavorava, lui si è trovato un po' così, insomma, nel mezzo, senza poter fare tanto. Come diceva Gianluca, scusa, poi dopo finisci, come diceva Gianluca, poi metteremo nelle note dell'episodio anche un sito dove ancora si organizzano tornei italiani. Poi Gianluca, era questo che volevo dirti. Ah, scusa, perfetto, scusa. No, a questo punto chiudiamo questo importante episodio. Vai, scusa. No, c'è questo sito in cui organizzano ancora dei tornei che si chiama Kick Off World, dove si possono trovare anche altre cose come un remake di Player Manager, e su un altro sito che tra l'altro vi consiglio di visitare in generale, che si chiama Idealsoft Blog, potete trovare anche il remake italiano di Kick Off 2, che vi lasceremo comunque anche come link nelle note, che io lo considero, in effetti hai ragione, me lo stavo dimenticando, non tu, ma lo considero un omaggio, cioè nel senso, per me è più che un remake, per me sì, è veramente un omaggio a quello che è stato un periodo che poi è difficile, veramente archeologia videoludica mette alla prova, perché l'emozione per ripensarci a determinate cose è intrasmettibile, cioè non si può trasmettere, quindi non mettetevi l'anima in pace, o la capite o non la capite, insomma. Siamo fortunati perché l'abbiamo vissuta. Esatto. Veramente. Esatto. E concludiamo questa puntata con, ovviamente, se hai parlato di uno, se parli da Roma non puoi parlare da Lazio, se viene infatti verso, quindi scatta il flame altrimenti. Esatto. Ah, non l'hai citato. No, prego. Quindi le cose si mettevano, insomma, in un certo modo per i computer. C'era questo Kickoff che dominava la scena in maniera assolutamente maestosa, non c'erano concorrenti in grado di intaccarlo per molti anni. Tra l'altro anche l'Italia è riuscita a mettere qualche esponente di discreto successo. Ma io la farò fuori classe a fine puntata, prima quando hai finito di parlare di questo qua, una citazionina la farei. Vai. Giochi italiani? Ha un gioco italiano in particolare che secondo me ovviamente non ha avuto il successo, ovviamente è stato tanti problemi, roba e genere, ma è stato è un veggente, secondo me, in qualche maniera, perché c'aveva un'idea di base che poi... Forse ho capito quale intendi, comunque. Sì, no, è un gioco che io ho atteso tantissimo quando vedevo le pubblicità. No, quando esce non usciva mai, perché lo rinviavano sempre. No, ancora non uscito. Vabbè, dai, continui. Chissà come mai. E quindi ecco, mancava un fuoriclasse dopo Kickoff, e allora la Sensible Software, che chiaramente veniva da un grandissimo successo sul Commodore 64 con MicroProSucker, non poteva non pensare ad un successore, anche se non ufficiale, perché si era svincolata dalla MicroPros, ma un altro gioco di calcio volevano sicuramente farlo. E allora, mentre stavano non c'era stata una pianificazione vera e propria, loro mentre stavano programmando Megalomania, che era un gioco particolarmente strano, Madonna, Megalomania. Sì, in cui dovevi guidare una civiltà in varie epoche, è particolare, anche molto carino, ma molto strano. E questo gioco aveva degli sprite che erano praticamente uguali ai giocatori di Sensible Sucker come proporzioni. Allora cominciarono loro a... questo perché cominciarono a sviluppare l'idea di un gioco di calcio praticamente in contemporanea con Megalomania, e nei primi tempi utilizzavano proprio gli stessi sprite di Megalomania, che all'epoca erano tipo i trogloditi, e poi sono diventati calciatori con qualche piccola modifica. L'ispirazione di Sensible Soccer è dichiarata, assolutamente dichiarata. C'è stata all'epoca molta guerra appunto tra i fan, dicendo che Sensible Soccer aveva copiato da Kickoff, ma in realtà gli stessi autori hanno tranquillamente ammesso che Sensible Soccer voleva veramente partire da Kickoff per poi creare qualche cosa di secondo loro migliore. Che poi un atteggiamento onesto, cioè nel senso... Sì, è stato un atteggiamento onesto, e fra l'altro si notava benissimo, insomma. Quello che John Eyre, che era il designer capo della Sensible, voleva cambiare soprattutto era nei controlli. Questo è un po' un controsenso, perché il controllo è stato sicuramente la chiave del successo di Kickoff, però chiaramente metteva fuori causa tutta una serie di giocatori meno abili con il joystick. Chi ci giocava a Kickoff ricorda bene che chi era più bravo riusciva ad appassionarsi, magari andava in fissa col gioco, ma tantissimi altri desistevano praticamente all'istante. Era veramente difficile. Quindi il primo obiettivo era quello di creare dei controlli ultra semplici per i giocatori, anche quelli un po' più scarsi, quindi magari abbracciare una categoria abbandonata per qualche tempo. Quindi si partiva da MicroPros Soccer, ed infatti una delle cose in cui Sensible Soccer è probabilmente superiore a Kickoff è l'uso dell'aftertouch, cioè del tiro d'effetto, che funziona probabilmente in maniera più naturale, più intuitiva qui, come se fosse più responsivo più che altro, e permette anche un interessante uso del pallonetto. In pratica, premendo il pulsante e mettendo la leva nel verso contrario a quello del tiro, si aveva questa impennata del pallone, che richiedeva un po' di pratica, ma comunque funzionava abbastanza bene. Una piccola contesa che vi fu fra Dino Dini e la Sensible Software fu sul cambio del giocatore. In pratica, quando noi effettuiamo un lancio, un tiro, qualunque cosa, il controllo passa da un giocatore all'altro. Si sono vantati di questa cosa sia Dino Dini che John Eyre della Sensible Software, perché praticamente funziona alla stessa maniera l'intelligenza artificiale che cambia il giocatore. Dino Dini dice che l'ha messa prima lui, John Eyre dice che l'hanno fatta da soli senza copiare, quindi vabbè, cose appunto da fan. Sì, vabbè, poi che ne è pieno il mondo dei videogiochi, questa stessa storia. Esatto, esatto. Una cosa importante è che Sensible Soccer nasce su Amiga, e questo si nota subito perché non ci sono compromessi grafici. Chiaramente Kickoff, arrivando all'ST, partiva menomato, cioè la grafica, il campo era spoglio, molto spoglio, c'erano pochi colori, gli sprite quando si sovrapponevano si impastavano in una maniera indecente. Invece Sensible Software è programmato in maniera molto pulita. Fra l'altro, la Sensible aveva una grande esperienza di programmazione su Commodore 64 e già su Amiga, a differenza di Dino Dini, che era quasi un debuttante. Quindi c'è subito questa grafica molto curata con questi sprite che si riconoscono anche fisicamente. Ci sono i giocatori di colore, quelli biondi, quelli con i capelli rossi, c'è veramente di tutto, anche se sono tutti sprite molto piccoli. La visuale di gioco è molto più aperta, si vedono più giocatori, più campo, quindi viene eliminato anche il radar, però è tutto veramente molto fluido. C'è uno sfruttamento molto ben fatto dell'hardware Amiga, ed è tutto con un look molto televisivo. Addirittura anche le scritte in sovrimpressione sono molto gradevoli, oppure magari quando la palla va al lato esce la panchina tramite un doppio tocco con la leva, con l'allenatore e gli altri giocatori seduti. Veramente c'è una, dal punto di vista coreografico, Sensible Soccer è subito accattivante, ti piace subito da in questo senso. E un'altra fase migliorabile di Kickoff, che alla Sensible hanno subito puntato, è stata quella della preparazione della partita, soprattutto rispetto a Kickoff 1. Quindi qui, come dicevi anche tu prima, siamo di fronte a un videogioco particolarmente adatto per i tornei, perché c'è un grande editor di match. Tu non soltanto decidi le squadre e la durata delle partite, ma decidi anche le condizioni atmosferiche, il periodo in cui devi giocare il tuo torneo. Addirittura potevi mettere che doveva iniziare a febbraio, e quindi magari all'inizio ti trovavi con i campi innevati, rovinati, quindi tante cose interessanti. E addirittura c'era un grande editor veramente completo per quanto riguarda squadre e giocatori. Tutti quanti avremmo sicuramente messo qualche giocatore, avremmo fatto la squadra dei nostri amici, per dire, certo. Esatto. E qui era particolarmente facile, e potevi cambiare anche le caratteristiche fisiche, quindi se avevi l'amico biondo potevi fargli i capelli biondi, e potevi cambiare i nomi anche, tutto quanto il resto. Le squadre ovviamente non erano tutte uguali. Una cosa interessante è che c'erano dei giocatori con una stelletta a fianco, ce n'erano tre per ogni squadra, se non ricordo male, che rappresentavano i giocatori più forti. Quindi tu sapevi, magari vedevi Roberto Baggio con la stella, capivi che quello era il giocatore più forte. E una cosa importante era anche che c'erano i giocatori con i veri nomi, quindi c'era tutta la formazione dell'Italia e tutte le altre squadre, e fra l'altro anche la scelta delle squadre era enormemente più grande di quella di Kickoff, quindi anche da questo punto di vista ai giocatori poteva far piacere scegliere la squadra del cuore o la nazionale più sfigata dell'Europa e trovare i giocatori veri, insomma. Sì. E quindi poi tutto il resto è storia, nel senso che nasce la grande sfida con Kickoff, no? Quindi cosa era meglio? Il gioco intuitivo, facile da approcciare come Sensible Soccer, oppure la profondità che ti porta a migliorare anche dopo 10 anni di Kickoff 2? Chi lo sa? Ma io l'unica difficoltà che trovavo in Sensible Soccer, che probabilmente, se non ricordo, era molto più veloce di Kickoff, quindi era... Sì, ma sai cosa? Era veloce Sensible, ma aveva questa visuale più ampia che ti permetteva di vedere più cose, quindi anche se era frenetico, diciamo, più schizofrenico, diciamo, sì, però riusciva a vedere quello che c'era intorno. Sì, quello è vero. Per esempio, io con Kickoff avevo il problema contrario, perché non ero abituato a vedere il radar, a tenere sotto controllo quello. Quindi c'era questa telecamera con i giocatori più grandi che mi creava, insomma, un po' di problemi. Non ero particolarmente bravo, anche se li ho giocati entrambi, insomma, in lungo e in largo. Io ho preferito all'epoca Sensible Soccer, però forse potrebbe aver influito anche il pensiero dei miei amici, perché poi chiaramente giocavo con loro un appoggio, giocavamo a quello, altrimenti con Kickoff facevamo poco. No, ma il problema è che kickoff, cioè per un problema, cioè, nel senso, nella mia esperienza kickoff è arrivato prima e quindi da lì in poi è stato difficile proprio il distacco, nel senso è come il primo amore, no? Non si scorda mai. Sì, ha voglia. Poi ci ho giocato a Sensible, ci ho giocato perché comunque la maggior parte dei miei amici alla fine poi prediligevano comunque quello, proprio perché comunque poi si facevano i torneoni e via dicendo. Però te devo dire la verità, comunque a distanza di anni, ecco, cioè nel senso era una questione proprio di percezione. Ormai quando sei abituato a un tipo di gameplay o a un ritmo, è difficile riuscire poi dopo magari a riadattarsi, perché comunque poi è un po' quando, come quando giocavi a FIFA e giocavi a PES, no? Nel senso che c'avevano alcune, erano identici a livello dei comandi, ma poi in realtà erano comandi invertiti, erano diversi, sì. Esatto, e quindi sì, comunque, c'era un tasto che esatto, quindi ti dovevi comunque riadattare a fare una determinata cosa. E allora a quel punto dici, vabbè, ma chi se ne frega, io gioco a questo, cioè sono abituato a giocare a questo, cioè, era più pigrizia, no? Perché poi alla fine era insomma questo. Certo, anche diciamo anche che anche di Sensible hanno fatto tantissime versioni dopo quella ufficiale, stavo dimenticando questo, insomma hanno fatto dopo un po' la 1.1 che aveva il fuorigioco, altre che hanno aggiunto tornei più specifici, fino al più famoso, insomma, Sensible World of Soccer, in cui si aggiungeva la carriera manageriale, che era fatta tra l'altro molto bene, è stato un gioco di enorme successo, e nel quale poi chiaramente venivano versione dopo versione migliorate sempre di più le partite. Anche in questo caso c'è su internet uno sterminio di fanpage e cose del genere. Anche qualcosa italiana, se non sbaglio. Sì. Anche italiana, sì sì sì, e anche in questo caso continuano ad organizzare tornei con una certa regolarità. Mi pare che però li facciano soprattutto su Sensible World of Soccer, ma comunque insomma appartiene sempre a questa serie. Homebrew sicuramente ci starà qualche cosa, sai, per quanto riguarda gli Homebrew è un pochettino diversa la situazione, perché Sensible Soccer è una serie ancora attiva in un certo senso. I kickoff sono abbandonati, se possiamo penso utilizzare tranquillamente questo termine, perché da anni ormai non esiste una nuova versione, non so neanche se sia stato rinnovato il marchio negli anni, non sono stati molto curati. No, so che poi alla fine il marchio fu comprato da una software house che poi fece il 3 che non c'era di Nodini, insomma, non so se ti ricordi. Sì, c'è fu insomma tutto un... Sì, ma si sarà perso chissà dove ormai. E invece Sensible Soccer non gliene frega più uscito... niente, manca a lui secondo me. No, probabilmente sì. E invece Sensible World of Soccer è uscito pure per Xbox 360, quindi e credo che il fatto i progetti amatoriali siano stati frenati anche un po' da questo, insomma, se tu lo rendi gratis disponibile per PC, quello certo. Su Xbox magari lo vendi un po' meno, e questo alle software house sappiamo bene che non piace particolarmente. No, se la licenza è attiva chiaramente non ti fanno fare niente. Io vorrei indovinare quel gioco che tu citavi. Dai, provaci un po'. È della Simul Mondo, si chiama. Sì, è della Simul Mondo. Grande gioco. Cioè, grande gioco. iPlay 3D Soccer. Esatto. Allora, grande gioco, insomma, ecco. Allora, facciamo un accenno, visto e considerato che siamo in epoca Amiga. Vai. Non l'abbiamo messo in scaletta, quindi stiamo dicendo corbellerie. Cioè, fate finta un attimo di questo. Perché c'era un momento in cui sulle pubblicità delle riviste, chiaramente c'era questo iPlay 3D Soccer. Erano, insomma, incominciavano a svilupparsi giochi in vettoriale. Non so se ricordate, all'epoca dell'Amiga c'era Hunter, che era un gioco completamente vettoriale, quindi roba del genere, e c'era questa concezione del mondo 3D, no? Nel senso dell'opportunità, della virtualità, insomma, quindi era una cosa interessante come concetto. E c'era questa immagine di questo uomo, questo calciatore stilizzato come se fosse in acrobazia, esatto, come se fosse in grafica vettoriale. In realtà poi quando sono riuscito a mettere mano sul gioco, che attendevo tantissimo perché fu decantato tanto, ma anche per ovvie ragioni, nel senso era un gioco della Simul Mondo, era un gioco italiano, se ne parlava tanto. Poi insomma la Simul Mondo è stata per un anno, per molto tempo una grande speranza per l'industria del videogioco italiano. Sì, è vero. Quindi insomma meritava anche magari un certo tipo di privilegio, tra virgolette. Quando poi tu caricavi il gioco ti metteva praticamente dentro a questo campo di calcio che era in 3D, ovviamente completamente spoglio, cioè nel senso non c'erano spalti, non c'era niente, cioè c'era soltanto eri tu e in un orizzonte infinito dove c'era sto campo di calcio dove praticamente e i giocatori erano in bitmap. Questa è una cosa che nel senso bisogna dire che è completamente all'opposto di quello che ti faceva immaginare la copertina, nel senso sì, immaginavi veramente un gioco completamente in 3D. Era un po' come il Doom praticamente del gioco dell'epoca. Esatto. Soltanto che come funzionava, qual era la meccanica? È che il gioco tu non gestivi la squadra così come potesse in Kickoff, tu gestivi un giocatore solo, cioè era l'antenato praticamente della carriera di FIFA Soccer. Esatto, ok. Quindi tu per dire quanto era avanti la Simul Mondo, appunto. Sì, l'idea era straordinaria, secondo me. Sì, vero. Senza ma dubbio. Poi la Simul Mondo ha avuto un sacco di idee straordinarie, un sacco. Anche le serie episodiche. Oggi vediamo The Walking Dead, ma loro di Landog conoscite l'avevano fatto secoli prima. No, ma è sì, esatto, quello è il discorso delle serie episodiche. Ovviamente loro prendevano licenze dai fumetti, chiaramente prevalentemente italiani, però insomma, certo. Alla fine c'erano grandi intuizioni. Comunque, vabbè, tu eri questo giocatore e ti dovevi posizionare, ovviamente facendo anche attenzione al fuorigioco, se non mi sbaglio, e alzavi la mano quando era ora, insomma, che ti passassero la palla oppure aspettavi che ti passavano la palla e tu ovviamente dovevi fare il resto, quindi ovviamente o dribblare o tirare o colpire di testa, roba già. E c'erano poi le punizioni, calci di rigore, e tu le punizioni avevi un quadratino che era praticamente il mirino e tu dovevi dire dove doveva andare a finire la palla e o tiravi verso la porta o crossavi e gli altri intervenivano, quindi c'era anche una specie da boss intelligenza artificiale. Ora io oltre a questo non ricordo molto altro, perché in effetti il gioco non c'era granché. Che il gioco era abbastanza ingiocabile alla fine, perché chiaramente l'intelligenza artificiale all'epoca immagino fosse proprio allo stato embrionale, sì, di quello che possiamo pensare oggi. Però come idea è vero che era assolutamente pazzesco, cioè solo a pensarlo a una cosa del genere all'epoca, incredibile. Poi, cioè nel senso all'epoca, dove, dove anche tecnologicamente non c'erano probabilmente neanche le condizioni di poter fare una cosa del genere, cioè nonostante è stato un grande esperimento, probabilmente forse un po' troppo pompato e forse troppo pompato in anticipo, un po' come facevano tante volte il buon Clive Sinclair, no? Che diceva sto a uscire la macchina che rivoluziona tutto, e poi dopo sei mesi ancora nessuno aveva ricevuto neanche uno degli gli ordini che erano stati fatti. E detto questo, insomma, è chiaro che, come abbiamo detto, appunto c'è più poco da dire, però era un, secondo me, degno di nota comunque la citazione, perché no, ma hai fatto bene, perché poi è un gioco unico. In realtà la Simul Mondo poi ha fatto, mi pare, uno o due giochi di calcio con il 3D misto a 2D, ma chiaramente poi questo qui è stato il più famoso. Aspetta che sto cercando, eccolo qua, fantastico, veramente l'ho cercato su YouTube, così lo mettiamo anche nell'episodio. Non era in scaletta, quindi considerate non vi stiamo dando grandi informazioni, sì, che sì, ci è venuto in mente adesso così, ma proprio perché comunque c'è l'esperienza di quello che abbiamo vissuto e c'è anche il ricordo veramente di sta scatola che lasciava presagire chissà che era tipo che la cosa. Panini, no? Era una rovesciata tipo sì, quella bravo, delle esatto, figurine esatto. Panini. Sì, che poi era un po' tipo, avete presente i primi album Panini, quando c'erano quelle figure un po' futuristiche, diciamo così, insomma quasi fasciste, insomma, nella loro estetica, ecco, era una cosa del genere. Però in questo caso quello che si voleva intendere era la vettorialità, no? Quindi la presenza della concezione in 3D, insomma. Detto questo, Gianluca, io penso, insomma, che abbiamo detto abbastanza. Lo hai giocato, penso, insomma, già hai la tua esperienza anche tu, insomma, su quel gioco. Quello che possiamo ricordare l'abbiamo ricordato. Metteremo appunto il link nelle note dell'episodio, guardatelo, perché comunque magari se vi capita, insomma, andate a cercare su Wikipedia, sicuramente qualche informazione la trovate. È un gioco che merita, nel senso che comunque merita l'attenzione, perché ha un valore storico, perché anche da lì comunque in qualche maniera, sebbene fatto in Italia, probabilmente non avrà manco mai varcato i confini, io non ne ho idea. Però insomma, no, sai che una volta ho letto su un numero, non mi ricordo di dove, forse di Retro Gamer, ne parlavano. Citazioni veloci, però comunque è arrivato, almeno in Inghilterra è arrivato. Magari comunque può essere anche lui nel suo ha dato un contributo all'evoluzione del gioco del calcio. E detto questo, a questo punto noi prima di tutto, diciamo, concluderemo tra un po' di tempo, insomma, questa trilogia dedicata ai giochi di calcio. Che ci è rimasto, Gianluca? Diamo magari un... ci è rimasto, diamo la scaletta così, no, un'idea prossima. Così, una vaga idea molto ma vaga. Dovremo vedere un po' i giochi in isometria, quindi FIFA, fondamentalmente FIFA, e qualche altro arcade famoso. Comunque c'è l'entrata del 3D con Virtua Strike, attenzione, FIFA, attenzione, dai, Virtua e Strike, quindi, insomma, qualcosa c'è, come si so, poi volendo possiamo anche trattare qualcosina ancora del 2D, eh? No, no, vabbè, perché no, qualcuno... no, quello come vuoi, cioè, per me va bene, però Virtua Strike volevo sentirlo, perché c'è, cioè, lì penso che si sono sentite parole di brutto genere in tantissime serie giochi, insomma, grazie a quel gioco. Sì, penso proprio di sì. Quindi è fantastico, tra l'altro, sia l'uno che il due, cioè il due poi con una grafica che tu dici, oh, vedi che roba, se Roberto Baggio è proprio lui, capito? Invece, va bene, detto questo, Gianluca, io ti ringrazio come al solito. Vuoi concludere in qualche maniera prima di lasciare la parola al nostro carissimo, anzi, prima che io entro lì nella dimensione del distruggitore? No, guarda, ringrazio ancora tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, e ringrazio te per la compagnia in questa puntata, e speriamo, insomma, che sia piaciuta anche questa. E io chi ha ascoltato la vecchia, insomma, pare che l'abbia apprezzata. Appunto, io ti batto le mani perché da quando sei entrato in APU, insomma, abbiamo avuto veramente un grosso riscontro, un grosso feedback, che poi a me fa piacere, perché quando i complimenti sono meritati, cioè, ci fa piacere, perché anche per AV è stato importante comunque l'entrata di Gianluca, così come salutiamo anche l'entrata di Mashiro Tamigi. Però è chiaro che poi quando i complimenti arrivano, arrivano copiosi e arrivano meritati, insomma, a noi ci fa pure piacere, insomma, perché quando uno quello che fa lo fa bene, insomma, c'è stata tanta gente che quello che fa non lo fa bene, e quindi ci fa piacere, insomma, che... Il segreto è che c'è un sacco di parenti che poi commentano. Ah, ok, no, no, no, non lo so, perché sennò, sai, noi, insomma, va bene. Detto questo, Gianluca, ci vediamo al prossimo episodio. Ci sentiamo per i prossimi appuntamenti. Qualunque questo sia, e andiamo a Kittes in Google. Kittes in Google. Io mi domando perché devo fare sempre questa storia, che devo entrare dentro sto frigorifero, che però stavolta mi sono portato il cappotto. No. Non è. Dove stai, oh? Ah, vieni qua giù, vieni. Ti vicinate, sento, ma non te vedo. Non... È esposta al quarto del bue. Ho capito, però una luce metticela dentro a sto cazzo. La luce c'è, ma se tu chiudi la porta di tutto. Ah, cioè, c'hai ragione. E poi dopo si sghiaccia. Ma tu lasci un filino sì, aperto, quello okay. È importante. Ok, tutto a posto? Sì, sì, a posto. Tutto a posto tu? Io so che. La prossima volta ci vediamo da un'altra parte, però. Io, questa è casa mia, e avvio qua. No, vabbè, la prossima volta ti porto allo stadio, dato che si parla di pallone. No, allo stadio. Allo stadio, sì. A vedere la partita di pallone. Perché siamo qui? Perché? Perché siamo qui? Perché io ti vengo a trovare quando c'è il Kittes in Google. Ah. Il kit sei in Google, sì. Guarda, allora, accomodati, mettiti seduto sulla spalla. No, guarda, sto a piedi, sto bene. C'è il sacco, il busto dei piselli. No, sono congelati, stanno bene. Lascia aperto. Vabbè, allora non lo so, che io ho un po' di cose, un po' di filmati. Ho trovato. Aspetta, che pulisco il monitor, che ci sta un po' di brina. Ecco qua. Allora, guarda, qui ci sta. Allora, io ho trovato una petizione, perché so che abbiamo parlato, parlato di Kickstarter, di Kickoff. Sì, chissà. No, abbiamo parlato di Kickoff e di Sensible Soccer, perché sono quelli che... Esatto, e quindi siccome che Dino Dini sembra che si sia dedicato alla musica, non faccio... Sì, è musicista, sì. Vabbè, musicista. Ti ricordi che abbiamo incontrato poi, no? Dino Dini, sì, Dino Dini, come no? L'abbiamo incontrato, parlava meglio lui l'italiano che non l'inglese. Quello sicuramente. E quindi se volete unirvi a una grossa petizione su chi... una grossa petizione online per far ritornare Dino Dini a fare un nuovo Kickoff. Ma io penso che lui è stato abbastanza chiaro su questo, insomma, potete fare, anche perché non credo sarebbe neanche, cioè, con tutto l'affetto e la simpatia, c'è la petizione, potete farlo, lui sicuramente poi raggiungerete i 15 miliardi di sottoscrittori, lui vi ascolta. Cioè, se avessero aperto un Kickstarter e gli dicono guarda, abbiamo raggiunto 1 milione di sterline, fai il kickoff, può essere pure che... E tu gli dici, ma che cazzo me ne frega? C'ho la musica. C'ho la musica e non me ne frega di più. Comunque, vabbè, io direi di linkarlo, perché magari. Lo metteremo nelle note dell'episodio, come al solito. Nella se proprio sezione. Ci tenete, potrebbe tornare. Se lo costruisci, lui tornerà. questa è una citazione. Questa è una citazione cinematografica. Cinematografica, anzi. Cinematografica, anche. Ecco. Ma poi avete parlato pure di Sensible Soccer. Ovviamente era l'antagonista. L'antagonista. Beh, io direi pure che non abbiamo cominciato a parlarne a sufficienza, per cui io direi di fare vedere un bel sito che è quello dove ci sono ancora le leghe online, dove si può giocare. Non avete parlato, mi sembra. Abbiamo parlato, però il problema è che ci meravigliamo ancora perché c'è tutto questa, ancora questo mondo vivace. Pensa che fra 30 anni ci saranno i bimbi minchia di oggi che faranno la stessa cosa con PES. Ma non lo so. No. PES 2006. Dal 2006 che è il più brutto. Che è il più brutto in assoluto. C'era un Pro Evolution Soccer in particolare che è veramente brutto. Che c'erano le bottigliette ai lati del campo. Bottigliette? Me lo ricordo. Me lo ricordo io. Perché mi diceva PES. E allora uscì questa versione, che era una specie di versione intermedia per PC. Cioè una cosa proprio brutta, brutta. Vabbè, comunque, in ogni caso, cioè, vi linkiamo anche il sito dove andarvi a scrivere per il vostro. Per fare la vostra partita. La domanda che mi faccio io perché? È: perché? C'è il sito per iscriversi e giocare online ai grandi campionatoni super giganti, ma su che piattaforma però? Non ci sono entrato dentro al sito, che c'entra? Non ce l'ho se il Sensible Soccer, non mi interessa. Si giocherà online, penso che ci sia. Online, allora vuol dire che allora Sensible Soccer è avvantaggiato rispetto a Kickoff dal fatto che c'è stata una riedizione su Xbox. Ne vogliamo parlare? Probabile. Parliamone. No, non parliamo. Non ne parliamo. Abbiamo un'altra puntata, facciamoci un'altra puntata. No, ma l'abbiamo già parlato comunque, che c'è stata la riedizione su Xbox. E poi c'è anche un megapack dopo, non so se o megapacco. O megapacco, se vuoi citarlo. Andiamo avanti. No, perché c'è appunto le megapacco, le Enhanced Edition. Io ho cercato di frugarlo nel sito, però il sito è morto. Però sembra che ci sia questo pack che aggiorna tutto il gioco al 2012, non so per quale piattaforma, perché veramente non ce l'ho provato ad entrare dentro il sito, ma purtroppo è morto. Il sito è morto. Sì. Però vediamo il link del per andare sul sito che è morto. No, anche per quello. No, no, prima vediamo il link del filmato su YouTube che vi fa vedere che cosa hanno modificato, perché dovrebbero aver modificato. Anche ci hanno messo anche un commento, uno pseudo commento, hanno modificato le interfacce. Diciamo che quando il portiere para c'è uno. Provata. Esatto. E poi sotto c'è il link che potete seguire. Arrivato fuori. C'è il link che potrete seguire per andare verso una pagina che non si carica. Quindi molto utile. Quindi vi vedete il filmato su YouTube e poi sulla descrizione c'è andate qui andandoci. Sì. E poi potete anche eventualmente giocare con la mod brasiliana, se proprio vi piacciono i brasiliani, c'è chi vi piacciono i brasiliani e c'è un altro sito che vi consiglieremo nelle note che praticamente vi permette di giocare con tutto il campionato, la Lega Brasiliana. Bello. Sempre il Sensible World of Soccer. Però diciamo che Sensible World of Soccer, appunto, è stato rispetto a Kickoff il più moddato. Infatti c'è una marea di mod, alcuni penso recenti, alcuni forse anche già dell'epoca. Alcuni che uno si chiede anche perché, volendo, però. Ce n'è uno in particolare, due anzi, che secondo me sì, sono un po' di Sensible. Non lo so se sono di Sensible, sì, poi lo vediamo. Sono sempre di Sensible. Avete parlato anche di Peter Beardsley? Diciamo che forse ne avremmo anche strisciato. Voi adesso non mi posso ricordare tutto. Insomma. L'avete visto per il Commodore 64? Probabilmente sì. Eccolo qua. Allora ce lo possiamo anche rivedere. Giusto? No, questo è per Spectrum. Aspettate, perché io vi ho trovato quello per Spectrum dove giocano dei Caspers. giocatori trasparenti. Sempre il solito problema che aveva lo Spectrum con gli sprite. Le varie parti del corpo sono scollegate. Ovviamente c'è il vuoto tra il braccio. Braccia, mano, gambe, piedi, ginocchia, c'è il vuoto, le giunture non esistono e di conseguenza ci sono degli organi che fluttuano nel vuoto. Ecco, è bellissimo anche vedere, a volte è stupendo vedere gente che tira il portiere che sta appoggiato al palo. Ma questa schermata che cosa ci indica? Quando... Che è stato fatto gol e nel frattempo i 25 secondi di schermata servono per caricare il nuovo lato. Esatto. Diciamo un gioco dall'inizio. Alla fine della partita poi sei diventato cieco e i tuoi organi fluttuano nel vuoto. Vedi, c'è il portiere che va, stavolta l'ha presa, però normalmente il portiere sta appoggiato al palo. Diciamo che il portiere si muove un po' come quello là del calcio del Verde. Matrix, se ti ricordi, che andava a cazzo imperio. E, ma allora, è un gioco che lo schermo, allora il prato è verde come giustamente, ma non è scontato con lo Spectrum, e i giocatori sono una squadra bianca e una squadra gialla, e i giocatori sono trasparenti, quindi cioè veramente c'è, penso no, che... c'hanno le estremità che fluttuano, cioè, sì. Poi ci sono molte pubblicità colorate intorno alla di giochi, poi di giochi probabilmente dello stesso, esatto, sviluppatore. Io direi che possiamo anche andare avanti, esatto, perché ci ha fatto un po' ribrezzo questo, fatto... magari potrebbe essere bellissimo, ma insomma visto così fa un po' male gli occhi. Ed è un gioco che potrebbe essere anche giocato in due, cioè con due giocatori, perché tanto tu tiri la palla per conto suo, ma sicuramente. E vabbè, cioè poi c'è, questo era Peter Burns International Football, poi c'è anche Emmeline Hughes, che è dell'anno dopo, perché prima dell'88 hanno detto mazza che brutto sto gioco che abbiamo fatto, dobbiamo quasi fare quasi meglio, perché lo ZX ci permette di fare grandi cose, come sentite, come si sente dal sottofondo, ovviamente la maggior parte dei giochi ci avevano tutti la stessa musichetta, il grillo poi tra l'altro, questo sì. Secondo me è neanche un mod di Match Day, secondo me è proprio e poi Match Day, che però gli hanno appiccicato il nome di Hughes, che però, non so per quale ragione, diciamo che il gioco l'hanno pagato probabilmente, però è bello vedere tutto il monocromatismo tipico, cioè, dello Spectrum, esatto, che poi è strano perché quello precedente invece qualche colore in più ce l'aveva, invece questo è proprio nero su verde, ma questo evita proprio il problema dello sprite clash, il color clash che c'era lo Spectrum, che poi tra l'altro se vi ricordate i primi giochi multimediali, quelli là in full motion video, che c'era il filmato che andava su un quarto di schermo, qui andava su un quarto di schermo il gioco, che tra l'altro già la risoluzione era quella che era, e la metà dello schermo era invece per il tabellone, esatto, cioè, bellissimo, veramente penso che ottimizzazione di programmazione ai massimi livelli, però c'era il nome dei giocatori. Quindi insomma veniva sono K sprecati quelli comunque. Attenzione. Vabbè, però l'ampeggia dopo che ha parato, perché ha subito un danno, però l'ampeggia sì. E vabbè, e dovrà dopo prendere una pozione e vabbè, un'altra bella porcheria che possiamo togliere, possiamo anche andare avanti, insomma, insomma. Voglio dire, che dici, perché è poi anche bello giocare, e anche in questo caso ovviamente vi trovate il filmatino simpatico linkato sul nostro website. Esatto. E poi perché non citare quest'altro bellissimo gioco che voi non avete parlato, perché io secondo me dovreste farci proprio un capitolo per Mega Man Soccer. Mamma mia. Nel prossimo episodio, perché ci sarà anche una terza puntata, immagino. Che poi passiamo praticamente dallo Spectrum allo Super SNES. Nintendo. Esatto. E quando io vedo questi giochi, già ne abbiamo fatto uno già ne abbiamo fatto uno simile, sempre per il NES, cioè quindi per il primo Nintendo, poi ci ha spiegato Gianluca perché è stato fatto, però in realtà vedo sto gioco con le palle che rimbalzano tipo quella monna sulle persone, sugli omini, che praticamente sono tutte quante il mondo di Mega Man, che io non so chi sia, neanche il portiere io. Si è rotto, no, perché tu puoi tirare la palla col potere speciale che affetta, che diventa una lama rotante e affetti i giocatori, che però poi dopo risuscitano, poi risuscita, quindi non è violento il gioco, non è violento, esatto. È una sorta di di mezzo tra il gioco del calcio e la violenza di Tom e Jerry, per e come si chiama quell'altro gioco che quello violento, c'è la palla di fuoco, quindi ha preso fuoco, mamma mia, Spinball, com'è, Spinball, si può darsi. E qui vediamo che praticamente ogni giocatore ha il suo. Ma poi che cazzo sono sti Mega Man? Mega Man è un altro videogioco. Mega Man. Non ci ho mai giocato, però esiste, so che esiste. Insomma, c'è anche il vabbè, suo. In realtà, c'è considerando anche il suo molto pubblico. Insomma. Considerando che hanno fatto Pet Soccer, voglio dire, possono fare pure questo, non è che alla fine. No, che dici? Ci andranno a peggio. E anche questo lo ritrovate come filmatino bello linkato. Poteva andarci peggio, non so, potevano fare. Che dire, una partita, un gioco di calcio con un mod di Counter Strike. Poi, potevano. Ma l'hanno fatto. Boo. Sì, l'hanno fatto. Guarda, clicca su quel link. L'hanno fatto e la cosa bella è che si può giocare in multiplayer. Questo lo dovete assolutamente guardare. Perché c'è un campo, va bene, la turbolenza. Poi c'è una palla gigante. Un campo che può essere tranquillamente essere stato estratto da FIFA. Esatto. e c'è questo campo gigante. Quando voi segnate questa palla enorme, tutti i giocatori muoiono, però poi risuscitano. Lo scopo appunto è segnare. Il problema è che la palla fa anche danno, quindi se voi la calciate, anzi la spingete con il vostro pugnale, oppure se venite investiti della palla, esatto, se venite investiti o se calciate questa palla, anzi pugnalate la palla e date potenza, schiantate addosso a un avversario, l'avversario viene schiacciato. E quindi qui potete vedere truculenza, ma sbratti di sangue, ci sono anche delle cose bellissime come giocatori che cercano di colpire di testa e vengono schiacciati, mentre come sentite sotto i tizi si stanno se la divertono, sì, se la divertono, non so anche in lingua, ma si divertono perché vabbè nella lingua universale la palla che rotola tutta sporca di sangue, se la dicono nella lingua universale del divertimento, del divertimento, è bellissimo. Beh, io ci vorrei giocare quasi quasi, adesso mi faccio, ma so che potrebbe anche, sì, esatto, so che potrebbe stimolarti questo gioco assurdo. Vabbè, comunque potrebbero come... farne un mod, cioè uno stand alone. Ogni occasione è buona, insomma, per buttarla in caciara, anche questo, insomma, non è da me. Ma poi abbiamo scoperto, io ho scoperto anche la cosa del nostro Santilio, che qualche tempo Santilio, fa sì. Qualche tempo fa lui ha cercato di nasconderlo, però poi in realtà ha fatto il commentatore di una partita. Che però non trovo più. No, vabbè, basta ricliccare sul link, perché penso tu l'abbia tolto. Dov'è? Scendi quella. Me lo sono perso, eccolo qui. Non lo so, questo? No, questo qui. No, questo qui. Bravo, bravo. Questo qui. Praticamente c'è un gioco che si chiama Liverpool. No, scusate. Questa è un altro. Non è questo, non è questo quello che è. Il gioco è Liverpool. Ti sei sbagliato. Certo, è Liverpool per Amstrad, è questo qui. Amstrad, questo che è bello qui, quindi. Esatto. Che abbiamo scoperto che Gianluca Santilio, se tu lo fai entrare dalla, lo fai uscire dalla finestra, rientra dalla porta o viceversa. Rientra dal frigorifero. E si è scatenato in tantissime collaborazioni, noi non lo sapevamo, tant'è che siamo ritrovati questo video così, un po' così, da Retro Gaming History, che insomma li facciamo anche pubblicità pure a loro, che sono comunque, diciamo, amici. E prende per il culo, insomma, questo fantastico gioco. Lo prende sia... per il culo. Ha fatto un serio commento alla partita. Lui infatti non parla del gioco, lui fa la telecronaca. Gli facciamo sentire qualche secondo, qualche estratto. Ovviamente ne vale la pena. Quello che si tiene sotto è la musichetta, che come loro stessi dicono nel video è praticamente l'unica cosa decente di questo gioco. Ma andiamo, insomma, a sentire qualche secondo di questa fantastica telecronaca. Ma poi vi spieghiamo il perché, insomma, la cosa può essere più o meno divertente. Attenzione, un passaggio all'indietro incomprensibile che non viene intuito da Cowans, che adesso cerca di recuperare la palla prima che vada in fallo laterale, ma non ci riesce. Palla rimessa laterale a Liverpool, si avvicina al pallone John Burns. Ma attenzione, cosa fa John Burns? Si avvicina alla bandierina del calcio d'angolo, è uno schema. Vediamo un po' che cosa si inventerà adesso il Liverpool. Attenzione, vediamo se arriva qualcun altro. No, ritorna sui suoi passi John Burns, incomprensibile il suo comportamento, ma è pronto per la rimessa laterale, la effettua, vediamo se cerca qualcuno al centro dell'area, carica le sue due barre di energia, ma la cede, la regala a Cowans. Cowans ringrazia, ma no, mosso a pietà, restituisce la palla a John Burns. Grande gesto di sportività, riprovaci John, avanti. Ok, certo, sentire quello che dice Gianluca senza vedere il video. Infatti, vedetevi il video. Ve lo andate a vedere il video, perché succedono cose inenarrabili proprio in questo gioco. Qui, no, non è un gioco di calcio. Penso diciamo se la batte proprio per essere il titolo quasi il più brutto di tutti, insomma. Sì, sì. Ma se la batte forse anche con Superman 64, perché insomma. No, beh, dici proprio come proprio titolo in assoluto. Ma più sì, brutto, ma certo, un gioco di calcio, questo qui non so che, perché l'hanno fatto diventare calcistico quando poteva essere tranquillamente un gioco di lotta. Succedono cose. Sì, cose in rabbia. Giocatori che si incazzano. Potevano utilizzarlo per un Double Dragon di massa, per dire. Sarebbe stato mai dato, si scontrano, si ammucchiano, capito? Cioè, proprio stanno sempre lì. No, il bello è che i giocatori, quando c'è questo problema sulle collisioni, che i giocatori quando si incastrano, cioè se fra di loro si toccano, si incastrano, quindi uno non può più andare indietro, insomma, vabbè, cose assolute. E anche dal punto di vista proprio del gameplay, per quanto riguarda il discorso del calcio, fa proprio, cioè, succedono cose senza logica, inarrabili, come gente che lancia la palla. E abbiamo capito perché l'Amstrad dal fallo laterale se la lancia da sola, insomma è stato emarginato all'essere quello che era. Vabbè, io direi che ci sono anche altri link, dai. Bravo Gianluca, comunque, bravo, complimenti. Bravo. Non sapevamo che insomma hai collaborato con Porci e Cani. Scherziamo. Perché insomma, anzi, se non mi sbaglio, Retro Game History dovrebbe essere il sito con cui collabora anche il nostro amico Fabio Bros, che quindi salutiamo e li salutiamo. Sì, saluti Fabio, che poi che non lo salutiamo. Salutiamolo Fabio. E poi c'è un altro gioco di chiare origini nordiche, che è quel link che avevi visto pure, il Greme, Pelailo, Pelailo a questo qua, Greme, questo qua, questo. Io Pelailo a Greme Somnes Vector Soft, perché allora, gioco, allora. È difficile da pronunciare, ma non è mai uscito sto gioco. No, sì, ma è Amiga 500, è uscito. Beh, però loro. Forse non è mai uscito dai confini dello Stato. Dello Stato dove della Smettonia, della Pastonia, non so da dove. Però penso sia il nord dell'Europa. E c'è questo bellissimo gioco fatto in vettoriale, che comunque era un'intuizione. L'intuizione c'è. Ma allora, diciamo che l'Amiga, e ce lo ricordava anche Hunter, ne abbiamo parlato poi durante la puntata con Gianluca, quando anche la Simul Mondo fece i play 3 di Soccer. Diciamo che l'intuizione diciamo l'inizio dell'era evoluta del vettoriale. C'è stava. Però il problema è che l'Amiga veniva messa nelle condizioni di fare cose che proprio la portavano proprio al limite. Anche se guardandovi ovviamente il filmato che troverete linkato, vedete che stiamo parlando proprio di personaggi vettoriali proprio all'estremo livello, cioè proprio ben oltre. C'è un frame rate di 1. Un frame rate di 5 fotogrammi al secondo. Ma neanche, io penso se fossero 2 fotogrammi al secondo. 2 fotogrammi al secondo e i personaggi sono proprio. Ecco, sono proprio vettori a casaccio, diciamo così, che poi se più si allontanano più vengono perdono gli arti, insomma rimangono solo i busti colorati e le gambe sono delle lame rotanti, esatto. E sembra che vestano un attimo delle brache di tela, però insomma a parte quello, cioè il gioco poteva essere non sono brache di tela, è il colore grigio dell'acciaio delle lame, esatto, sono dei cyborg, esatto. Poteva essere un gioco fantastico, cioè se avessero fatto la stessa cosa su una macchina un po' più potente, probabilmente avrebbero spaccato. Però. Diciamo che l'intuizione del 3D dell'era vettoriale ci stava, perché comunque si era capito che con il 3D si potevano creare mondi, situazioni, ambienti, anche diciamo. No, aspetta, ti interrompo. Non so se hai notato che quando si sta in attacco, sono tutti in attacco, cioè arrivano tutti nella metà campo avversaria. Questo poi non si capisce. Cioè sembra che i blu sono di più dei rossi, insomma non è che poi si sammucchiano, utilizzano il metodo dello sciame delle ali, no? Ecco, vedi, quando c'è troppa gente proprio non, cioè veramente siamo arrivati a un fotogramma al secondo. L'intelligenza artificiale sfrutta l'intelligenza delle api, cioè praticamente il pallone è il bersaglio e tutti i giocatori sono le api, quindi li vanno addosso come se fossero un solo uomo. No, ma secondo me l'intelligenza artificiale non ce l'hanno, cioè non c'è, non è, c'è. Talmente che doveva Sente calcolare spremuto che non c'è, esatto. Guarda, sembra c'ha le gambe qui, non si capisce bene che cosa siano. Però vabbè, diciamo l'intuizione c'era. Poi vi ricordate il primo Alone in the Dark, no? Che il personaggio era tutto vettoriale. Questi sono peggio, molto peggio. Perché per Amiga. Perché l'Amiga 500 secondo me qua era arrivato proprio. Forse che ne so, un'Amiga 2000 magari, forse ce la poteva. Potremmo ritenere questo gioco il The Last of Us dell'Amiga 500. Proprio quando a fine generazione l'hanno spremuto talmente tanto che penso che il programmatore non l'ha fatto mai uscire perché gli si è squagliata la macchina con la quale faceva lo sviluppo. Insomma, vabbè, detto questo, guardatelo perché comunque è facile dire che è brutto. Attenzione, c'è l'azione in attacco, quindi fantastico, no, tanto, no. Fantastico contropiede e tiro. Forse non l'hanno tanto. Attenzione. Avete sentito? No? C'è il pubblico, un rumore tipo. È agghiacciante. Vabbè, comunque, agghiacciante, io direi, insomma, guardatelo perché si fa presto a dire che è una merda. Cioè, comunque dovete sempre contestualizzare quando parlate di queste cose, Marco. Sì, poi. Possiamo anche citare, non so, l'alternativa di Sensible Sock con le arance. Sì, quei mod carini, insomma. Mod, che anche qui lo linkiamo, magari senza parlarne più di tanto, perché tanto non è che ci sono. A parte il fatto che sono delle arance i giocatori che vuoi. Cadono delle banane. Cadono tanto delle bucce di banana e ci sono i portieri che sono delle pere. A parte questo, cioè, non c'è un granché, ma senza che ne vada infatti, infatti sì, sì. Guardate, è carino, carino, da vedere è carino, però vabbè, c'è so. Anche quello sulla luna, mi chiamo sulla luna, luna, sì, che poi tra l'altro è inutile, sì, è abbastanza, cioè nel senso uno dei mod più brutti, perché ci sono anche i crateri, che se i crateri fossero funzionali al gioco, nel senso che cioè magari creavano difficoltà, roba del genere, devi una palla, girano il giocatore, niente, pure estetica inutile, veramente inutile, diciamocelo, proprio il lavoro, il lavoretto proprio tanto bene, sì, butta lì. Ho fatto pure un mod per Sensible Soccer. Beh, segnaliamo anche un'imparziale recensione di Sensible Soccer sul fan di Kickoff, esatto, sul fan site di Kickoff, lo immaginate, ne parla benissimo, esatto, perché infatti a un certo punto mi sembra che dica che Sensible Soccer sia meglio di Kickoff, a un certo punto mi sembra proprio talmente imparziale, imparziale, sì. Io vi suggerirei di andare a vedere, lo linkiamo, tanto lo linkiamo, no? Secondo me tutto quanto quello di cui parliamo, insomma. E poi aspetta, adesso tolgo un altro po' di brina, che c'è un po' di brina al monitor, ecco, cioè, quindi, classe, lo vedi quel link là sotto, cliccalo, clicca l'ultimo link sotto, l'ultimo, la brina, l'ho qua, ce l'ho già pronto, ce l'ho già pronto, bravo, eccolo, bravo. Qua qui stiamo parlando addirittura dell'Atari, Atari ST, quindi che creò un gioco sul Subbuteo, che quindi, dice, oh, ammazza, però c'è pure la sigla, anche qui c'è pure la sigla del piratone, sul video, sì, che però dice, però cazzo, c'è, c'è Subbuteo, cioè anche qui un'intuizione, qualche cosa vuole portare un... sì, diciamo hanno voluto dare un tocco che... originale, perché dice, vabbè, sempre il gioco del calcio, sempre uguale, siccome insomma negli anni, fine anni 70 e 80 Subbuteo insomma era anche un fenomeno, perché comunque tanti ci giocavo, ce l'avevo tutto quanto, pure lo stadio, figuratevi, quindi. Il computer è stata la morte del Subbuteo. Il computer è stata la morte del Subbuteo, hai detto bene. E quindi il Subbuteo ha provato a uccidere il computer da dentro. Sì, sì, no, perché per la serie, se non puoi batterlo, fatto l'amico. Aleati. E invece niente, è stato schiacciato comunque. Però in ogni caso, questa era una cosa intelligente, che magari potrebbe essere ripresa oggi per dei giochi sui telefoni, sui dispositivi mobili, perché poi alla fine. Forse sì, potrebbe essere. A parte il fatto che su questo video i tempi di gioco durano tipo un minuto, per cui c'è tempo di fare proprio il primo movimento e finisce il tempo. Ma spieghiamolo questo gioco, perché a me è vero che vi potete vedere tranquillamente il video, però insomma. Magari è talmente complicato che non riuscite a capire. Che non lo capite, no? Allora noi ve lo spieghiamo, perché vi vogliamo bene. Perché a parte poter scegliere le squadre cambiando le divise sui pacchi del Subbuteo, quella sì, la scatola dei giocatori, molto simpatica. Il Subbuteo come funzionava? Ci sono questi giocatori, ovviamente dovete dare le schicchere con le dita per muoverle sulla palla e cercare di segnare. E ovviamente per dare le schicchere, la schicca significa colpo, colpo col dito, la schicca. Non capite che cazzo di schicca, lasciate stare, insomma. E per farlo c'era ovviamente la possibilità di posizionare nell'apposita sezione dello schermo, c'era il dito che si muoveva sul bordo del disco del giocatore, e su un altro, una volta selezionata dove doveva andare a colpire, decidere la partiva potenza. Invece la potenza, la parte della potenza, e poi a seconda di come stava lontano il dito dal disco, ovviamente dava più potenza. In base a questo dovevate andare a prendere la palla e segnare. È un po' il criterio che viene utilizzato, non so, nei giochi di biliardo. Sì, magari avessero usato il criterio del biliardo, perché sì, vabbè, è un po' più complicato, qua devi dare la schicca, insomma. Cioè, sì, vabbè, ma è brutto per davvero questo. È un po' gioco di strategia a turno, quasi. Considerate che nel primo tempo riescono a dare un colpo, due colpi una squadra e un colpo un'altra squadra, basta, quindi non succede assolutamente nulla. Però è giusto per renderci conto, magari è tipo a turni, poi non si capisce. Beh, Subbuteo è a turni effettivamente, quindi sì e no, sì è a turni, sì. Però vabbè, comunque la squadra di difesa può comunque muovere mentre che tu attacchi. Non ha detto che non lo faccio, però magari in questo caso non ce n'era bisogno, che era talmente messa bene la squadra, certo. Certo. Però, cioè, però è in 3D, vediamo che c'è anche in 3D. Sì, è in 3D, vabbè, il campo è in 3D. Anche i giocatori più o meno in 3D lo vivono. Vabbè, abbiamo visto che dura. Senti, vabbè, io lo sai che te dico. Ha messo il gioco, mi ha fatto venire freddo. Quindi. Ma guarda, io ho una bella bottiglia bottiglia di vodka che te scalda. È ora di cena. Ora però di cena, devo tornare a casa. Ci stanno i bastoncini, ti scalda. Una bella cena di pesce. Scaldi dentro al frigorifero, qui fa il macello. No, devo andare perché c'è. C'ho un microonde, c'è un forno a microonde dentro. Mi moglie, ma aspetta, non so, purtroppo c'è. Ma ha detto che oggi aveva fatto la spesa proprio per me, quindi se no sarei rimasto tranquillo. Ma guarda, c'ho, se vuoi, c'ho dei sofficini che metto in microonde, ancora con sto microonde, ti ho detto che devo andare via. Cioè, vabbè, ma te che... offro da beve. Da beve, guarda, beve purtroppo prima di cena non si può fare perché il dottore. Caffè. Vabbè, io esco. Ti aspetto di fuori e mi porti il caffè, va bene? Ah, ecco, me lascio aperto. Allora, vabbè, lascio aperto, va bene? Vabbè, allora ti faccio. Scaldo il caffè. Scala. No, scaldo. Sarà tranquillo. Ciao. Ma come cazzo lo scaldo il caffè qua dentro? Lei è consapevole di essere una vera e propria leggenda per i giocatori, retrogiocatori di calcio? Ma alcuni dicono così, ma è forse è vero, non lo so, è una cosa che ero proprio honored, come si dice honored? To have honor. Onorato, sì, che mi hanno chiesto da venire qua. È proprio è una cosa meravigliosa che giochi vecchi sono. C'è un posto dove posso andare, così. Ma non lo so, io ho fatto questi giochi, ero in Inghilterra a quel tempo lì, sono inglese, infatti non. Tutte le cose che sono successe in Italia, io non lo so, hai capito? No? Ma cioè, parlavo con qualcun altro, questa storia del cartellino Gaillo. Gaillo, sì. È una cosa che per me, ma è vero che tutti capiscono cosa vuol dire il cartellino Gaillo. E viene da un sbaglio che io ho fatto a mettere dentro la lingua italiana dentro il gioco. Non era io lo so che è giallo, no Gaillo, ma era un sbaglio. Forse calcio d'angalo era proprio un sbaglio. ma il buffo è che questa cosa per me mi fa sapere che qualcosa è successo in quel modo lì, che a volte ricevo email, ho ricevuto un'email da qualcuno che era a cartellino giallo at qualche indirizzo. E, insomma, con quello forse capisco un po', non lo so. Thank you very much. Destinazione Natale a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo perfetto nelle oltre 160 boutique delle migliori firme, con sconti fino al 70%. Vivi la magia delle feste con noi e vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet.